Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Dimmi Mario, dimmi. Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, posso, quello non che non posso farlo, non posso ma farlo. Ma se non puoi fare, tutti. Allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai Mario. A fare in culo tu, ma pirla. Non chiamare, imbecille! Se hai litigate? Il telefono così, perché non chiamare, sempre non stato chiamare, non chiamare, se hai il telefono così, non chiamare, ma imbecille! Ma perché sempre stata smessa? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile. Tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Intanto volevo dirti che Parenzo è un grande stronzo come te. Buonasera, grazie per aver chiamato. Il signore Daniele ha 59 anni e ha lavorato per 39 anni. Ah, lui capito, parla per cui fai silenzio. Ecco, questi David, che dicono silenzio. Perché io ho lavorato, poi dicono vero, le peggio sì. cose sì, storicamente. Signorino Parenzo, sì. Lei deve stare zitto perché è andato da Padova e è andato a Roma. Ma perché c'è questo? Scusa, perché è un crimine, non ho capito. Per lavorare, sì, perché certo. È un crimine, non ho capito, che lavorare? Vuol dire? Certo. Ma che cazzo fa tutto il giorno? Ma non ho capito, come? Lei è un indipendentista veneto, scusi, uno deve rimanere dentro il Veneto, il resto è tutta Terronia, non ho capito sì, bene. Sì, abbiamo capito bene. Tutto. Dunque, lei pensa che il Veneto deve essere indipendente, ok? Sì. E sotto il Veneto cosa c'è? Da Napoli in giù, che cosa c'è? Anzi, da Roma in giù, che cos'è? Niente. Niente, non ho capito, scusi. Beh, i carabinieri, per lei esistono i carabinieri? Solo in Veneto. Sì, ho capito, ma i carabinieri rappresentano lo Stato. Sono per me... Veneto è indipendente. Indipendente da cosa? Da che cosa? Indipendente dalla sua testa. Da chi? Indipendente dalla sua testa. Cioè la sua testa è indipendente dal Veneto. Questo è il punto fondamentale. Indipendente da tutto. Va per le sue, per i lidi. Va per le campagne. Caro Daniele, possiamo sì. essere d'accordo su sì? Dice sempre sì. Sì, sì. Possiamo essere sì. d'accordo. Io ho lavorato. E io ho lavorato. Sì. È una dichiarazione di una gravità inaudita, Paolo. Dove sei, Veneti? Comunque, pensavo che la zanzara alla fine è un gabinetto, è un cesso, perché ne hai sempre bisogno e lì dentro riversi tutta la merda che hai in corpo. Retoricamente e non, ed è proprio un momento catartico. Avanti tutta! Le guerre che ci dicono dovute a quello o quell'altro, in realtà io ho scoperto con questo libretto di appena 500 pagine in cui parto dall'inizio, dimostro che praticamente tutto l'universo si muove per l'alimentazione, ma l'alimentazione non dell'aspetto materiale delle cose, ma dell'anima contenuta nello spazio delle cose. Quindi l'essere umano che si crede alla sommità del vertice evolutivo, in realtà al di sopra di lui ci sono gli angeli e i demoni, mi spiego, che si nutrono della sua energia psichica. No, è possibilissimo. Fatemi sapere di questa cosa, perché non voglio dare notizie false, assolutamente. Il collegamento da Roma, David Parenzo, applausi. Buonasera. buonasera cari amici. Un saluto particolare al dottor Arcuri, che in queste ore è impegnatissimo nel fornire i banchi. Ma che cosa c'entra Arcuri? Se deve leccare il culo ad Arcuri, a Lazzolina. Sei il manutengolo del ministro. Lazzolina, incredibile. Dottor Arcuri, che è in queste ore impegnatissimo. Un grande in bocca al lupo. Ma chi sei? L'ufficio stampa del governo. Qui c'è impegnatissimo fornire i banchi. Qualche problemino c'è stato, però insomma, il ritorno da Padova, anzi da Abano Terme, di Alberto Gottardo, Davano. Mollemente adagiato, alla faccia tua che sei in quel buchetto. Io sono in un suitone esagerato, godo come un pazzo. Allora, si ragazzi, gode tantissimo, sì, certo. Parleremo moltissimo dei Fratelli d'Italia, vi dico solo questo. Parleremo di un partito che si chiama Fratelli d'Italia. Come mai? Ci sono vari episodi che in giro per l'Italia. Cosa ha fatto questo ottimo partito in questi giorni? Cosa ha fatto? Partiamo però ragazzi dalla vicenda di Caivano. E in quale città potremmo dire? In quale città? Ma lasciamo perdere. Allora, io non capisco perché. Allora, esiste l'omofobia, allora? Diciamo solo questo. Ecco, intanto. Ecco subito la cazzata. Esiste l'omofobia. Ma cosa c'entra la legge che vogliono fare? Che è una legge che colpisce la libertà di opinione? Ma che vuoi dare degli anni in più a uno che ha ammazzato un signore e una ragazza? Semplicemente perché l'ha ammazzata, gli vuoi dare 10 anni in più? L'aggravante dell'odio, certo. Ma non dire assolutamente cazzate. Sì. Se uno ammazza una persona, per me deve andare in galera a vita. Quello ci mancherebbe altro. Tu invece gli vuoi dare altri anni semplicemente perché magari quello non è omosessuale. Dell'odio. Esattamente, dai, perché c'è l'aggravante dell'odio. Esattamente, dai, esattamente. Come Cecchi Paone. E questa storia lo dimostra. Ma che Cecchi Paone, non mi interessa Cecchi Paone. Aspetta, questa storia lo dimostra però. Cecchi Paone, subito la legge contro l'omo e la transfobia. Ma che cazzo c'entra? Ma uno che è un pazzo ammazza la sorella. Pazzo. Almeno per adesso lui nega naturalmente. La sorella, lui nega, la sorella era fidanzata. Lui nega. Era fidanzata con un signore, con un ragazzo. Con una ragazza che stava cambiando sesso e stava diventando uomo. Che si sente un uomo, eccetera, eccetera. Va benissimo, per me va bene tutto. A parte che lui nega e dice di avere solamente speronato, ma il motorino non voleva ammazzarla. Ma lasciamo perdere questo. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? L'ha detto lui. Ma cosa le c'entra? Le motivazioni omofobiche. E che gli dai 10 anni in più? Il criminale. Gli dai 10 anni in più? Le date il criminale. Ma pensiamo a farlo rimanere in galera, altro che cazzate. Ma il perché, pensiamo a farlo rimanere in galera. Ma il perché lo ha spiegato lui, che ha ucciso la sorella, ha spiegato lui perché ha fatto quel gesto. Sentiamo Cecchi Paone, dai, vergognatevi. Subito la legge contro, ma che c'entra? L'omo trans. E che c'entra? Subito, di corsa. Ma di corsa perché è una legge che? Contro l'odio, che colpisce l'odio, anche quello fatto di parole. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Non è che no, ma fammi capire. Dai, se ci fosse stata la legge che dava 3 anni in più di carcere, allora io non uccido mia sorella perché ci sono 3 anni in più. Dai, siccome me ne faccio 15 per il prete intenzionale invece che 18. Ma c'è già l'aggravante per futuri motivi. Non dai, su, ma ci sono, ma c'è tutta la legge a disposizione. Cioè, dovrebbero tenere la gente in galera, questo è il punto. Tenere la gente, pensassero a tenere la gente in galera. Non a dare danni in più perché massimo un omosessuale, dai, o una che sta con un omosessuale o sta con un trans, ma che roba è? Dai, su, è una puttanata pazzesca. Subito la legge, subito, tutti subito. Quanti, ma subito la legge perché le cosa? Grida. Che se le io dico faccio di merda vado in galera. Anche per le parole d'odio nei confronti degli omosessuali e dei transessuali. Ma se uno si sente diffamato va in tribunale, ma punto se e basta, tu offendi uno perché è omosessuale, quanti ragazzini si sono uccisi o di uccidersi? Dai, perché offendono? Allora, perché li hanno presi in giro? Per legge, tutelare le persone più deboli. Invece di fare un lavoro culturale nelle scuole, nelle famiglie, nei patronati, ma tutelare le persone più deboli, ci si lava è la coscienza. 3 anni in più di carcere, mi sono lavato la coscienza. Dai. Tutelare le persone più deboli. Intanto, questo fa. A proposito di Fratelli d'Italia, un signore, consiglio comunale di Potenza, Michele Napoli, dice che i gay sono contro natura. Vai. L'omosessualità, diciamolo con chiarezza, così usciamo proprio dal. Diciamolo con chiarezza, sì. È allora? Contro natura perché contraddice la legge naturale della vita, il diritto naturale. Il diritto naturale. È un diritto sacrosanto. Cioè? La differenza tra sessi è la riproduzione della specie. E dunque? Cioè non ho capito, i gay sono contro natura, dunque il diritto naturale, quello là, maschio, femmina, eccetera, questa è la storia. Michele Napoli. Contraddicono. Fratelli d'Italia. Ecco, appunto. Fratelli d'Italia. Appunto. Vogliamo ricordare il caso della settimana scorsa? Il caso della settimana scorsa, giovine consiglio regionale del Veneto, candidato pure. Assessore a Vicenza, candidato al consiglio regionale del Veneto, sempre che dice per Fratelli d'Italia, che Mussolini qualcosa di buono l'ha fatto. E vai. Siamo a quota 2, come dice Capezzoli. Uno, quello lì. Due. Eccolo qua, adesso poi andiamo al 3. So che a lei può piacere la dittatura, no? So che a lei può piacere, insomma, no? Lui. Cerco di guardare avanti, cerco di guardare avanti e non indietro. Però lui qualcosa di buono l'ha fatta, il signor Mussolini, magari, no? Qualcosa di buono. Quello lo riconoscono tutti, penso che lo riconosca anche il Parenzo. Mussolini ha fatto qualcosa di buono? Qualcosa di buono l'ha fatto. E che ha fatto? Ha detto buongiorno a qualcuno. Ha detto buongiorno a qualcuno. Guardate, allora io veramente. No, ma che ha fatto di buono? Scusa, Giovi, adesso sono curioso. Che ha fatto di buono? Ah, non ha fatto niente Mussolini di buono. No, ma vogliamo, parlare, di che cosa? Vogliamo parlare delle bonifiche. Dai, le bonifiche. L'Inps. Ma guardi, ma certo. Allora, qualcuno dice che per queste frasi uno si deve dimettere, non deve più presentarsi in campagna elettorale. Ragazzi, stiamo esagerando, però. Uno non può esprimere manco un'opinione. Va benissimo, per carità. È un politico che dice Mussolini ha fatto delle cose buone, ma sti grandissimi cazzi. Non è che uno si deve dimettere dalla politica perché dice che Mussolini ha fatto delle cose buone. È molto grave. Ha elogiato vai alcune cose. Vai in Mussolini. Germania a dire che Hitler ha fatto delle cose buone. Vai in Germania, vediamo cosa succede. Ma io no, a me non me ne frega niente. Di che Pinochet ha fatto delle cose buone, vediamo che cosa succede. Vai a dirlo. Pinochet ha fatto delle cose buone, vediamo cosa succede in questi paesi. Secondo te uno così cosa dovrebbe fare? Si dovrebbe dimettere dal consesso civile prima di tutto, prima che politico. Uno può dire Stalin ha fatto delle cose buone, ma non può dire Mussolini ha fatto delle cose buone. Dice che Stalin ha fatto delle cose buone. Se uno lo dice nessuno si scandalizza. Se uno dice Stalin è il mio mito, perché Stalin non è la storia italiana. In Italia c'era Mussolini e va così. Se vai in Germania e dici Hitler ha fatto delle cose buone, inizialmente ti arrivano delle persone vestite di bianco e ti portano via, poi arriva anche la magistratura. Questo succede in Germania. Il signor Hitler prova a dire in Germania. No, sì, tu prova in un talk show in Germania, normale, un talk show. Prendiamo prendiamo l'omologo di In Onda con un altro telese enorme in Germania. No, immaginiamo una roba così, un In Onda con telesone, che dice tutto, immaginiamo così in tedesco, e che c'è un deputato dell'omologo dei Fratellini d'Italia, che è l'alternativo Deutschland, e dice Hitler? Hitler è buono. Secondo me come il conduttore televisivo del momento, come minimo, ma scusa. I nazisti in prime time. Minchia, se Parenzo prende il Covid, godo come un riccio. Lui e le sue minchiate. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. A Crucia, ma se è vero che chiopi al culo c'ha denti cariati, Parenzo c'ha la dentiera. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Croce Lorenzo! Cruciani, Giordano non è il giornalista con le palle, è solo il leccaculo di Salvini. Sii coerente qualche volta. Senti la vecchietta che picchia su Giordano, che dovrebbe essere il suo prototipo di ascoltatore, no? Teoricamente sì, la vecchietta, vedi i pregiudizi. Allora Ciro, che è in realtà una femmina, ma che si sente uomo ed è il fidanzato purtroppo della ragazza che è stata uccisa dal fratello, che sarebbe stata uccisa dal fratello, mettiamola così, ha parlato oggi in una conferenza stampa, diceva ti devono ammazzare il fratello che è accusato di omicidio, eccetera. E voi siete fermati perché avevate paura? Che ne c'è vicino a me, film da sciacciere? Non è che hai vicino a ciò, devo parlare, non è vero niente. Ha detto solo ti devo ammazzare a me. Perché eravamo due femmine per loro, senza un futuro. E cosa sognavate per il futuro, Ciro? Pensare felice. Allora, io dico, ragazzi, quello che ha ammazzato, dovrebbe quello che ha, molte cose, quello che storia ha ammazzato la dovrebbe sorella, dirti molto, sempre dovrebbe... che l'abbia ammazzata, cioè, essere morta è morta, bisogna vedere che tipo di omicidio sarà, come verrà classificata, anche, non c'è dubbio, perché poi ha picchiato pure quello, non c'è dubbio. E la ragione quel tizio qual è? Là, per me, perché merita, ma sì, ma perché ha dei perché pregiudizi, ma non per colpa di Adinolfi, non per colpa, allora dovete dire che il mandante morale è Adinolfi, o è qualcun altro. Ma non lo conoscono neanche, non sanno neanche chi sia lì Adinolfi. Allora, la Meloni, il mandante morale, è chi la è? Follia, quelli è che la di... follia di un ambiente retrivo dell'estrema destra, ambiente culturalmente retrivo, culturalmente retrivo, che considera l'omosessualità una malattia. Negli ambienti dell'estrema destra e Gottardo c'è questo ti va clima dietro, retrivo. Gottardo, no, Gottardo sono perfettamente d'accordo con Parenzo, c'è un'acqua e ci sono i pesci. E secondo me certi comizi, certi giornali che tu leggi, Cruciani, bello, e certe battutine da bar fatte da ministri, Frocio, per esempio il Frocio e il sorrisino, e allora probabilmente la bestia su Facebook che sparge odio e post del cazzo, questo, probabilmente questo aiuta totale. Poi cioè, le menti state più dicendo schifose che il fratello, a degenerare. Che il fratello, no, Michele, aspetta, che il fratello di questa qua, il mandante di questo signore, sono i comizi, non so, di Salvini, no, della scusi, Meloni, scusi, sulla famiglia tradizionale, eccetera. Ci sono, non avete le palle per dirlo. C'è un brodo culturale e politico che vabbè, con delle parole d'ordine tipo ci stanno attaccando la famiglia, il convegno sulla famiglia dove sei andato tu a Verona a dire io mi sento uno di voi, ma che c'entra, per esempio, fa parte di questo disegno qua. Ma tu sei, voi siete completamente fuori di testa. Intanto, ragazzi, è tornato Santuzzo, San Minchia, come si chiama, a fare campagne elettorali in Toscana, le sardine. Ma questo che lavoro, no, ma che lavoro che cazzo, fa? Nulla. A parte le campagne elettorali, cazzo, non fa un cazzo dalla mattina alla sera, non fa una minchia, vabbè, perché si può permettere di girare tutto il paese, la Toscana, non fare una sega per fare campagna elettorale a favore dei vari candidati di centrosinistra. Parole, è il punto. Parole che si attaglierebbero benissimo anche a Salvini, tra le altre cose. Se tu quello togli fa la politica, il soggetto, cioè, quello fa la politica ufficialmente. Certo. Santori facesse politica, chiaro. Santuzzo facesse politica ufficialmente, con si centrosinistra non rompesse il cazzo. Si candidasse, sì. Le sardine sono nate per stringersi, e per affermare cosa? Un messaggio politico diverso, che non fosse basato sull'aggressività o sul semplicismo, che poi è molto simile, no, a quello che in qualche modo è stato il fascismo in passato. Semplificare, scardinare alcuni punti del tessuto sociale significa favorire chi vuole governare senza dover dare troppe spiegazioni. Aspetta che segno: aggressività, semplicismo, fascismo, gente che vuole governare con messaggi semplici senza trovare soluzioni. Questo, aspetta che mi segno tutto, questa lezione di Santuzzo. A un certo punto appare nella folla, mentre Santuzzo stava facendo il suo comizio, il padre della Ceccardi. Padre della Ceccardi. Cosa fa? Che comincia a urlare dicendo comunisti, fascisti siete voi, fascio comuni. Il padre della Ceccardi. Attenzione. Momento di folklore. Il bello della politica per strada è che è questo. Ma vai a casa! Fascio comunisti. Il voto a 34 anni che è morto! Intanto Berlusconi ce l'ha fatta, ragazzi, ha fatto pure una conferenza stampa, è uscito dall'ospedale, grande, me la sono scappata, grazie al cielo, grazie a Zangrillo, la prova più pericolosa della mia vita, ognuno di noi rischia di essere contagiato, ma ragazzi, se ce l'ha fatta Berlusconi, però che ha una marea di una marea di patologie, ce l'ha fatta, perché l'hanno preso in tempo, una carica virale pazzesca, ho capito, Zangrillo ha detto che se quella stessa cosa fosse accaduta a marzo, probabilmente ci sarebbe rimasto. Senza, certo. Senza non terapia lo fai intensiva. L'audio. Senza non terapia lo fai sentire l'audio, senza però. Terapia. Non lo fai sentire. Non c'è. Il COVID non c'è. L'abbiamo sconfitto. Non esiste. Ma Berlusconi, però? Scusi, Zangrillo. Berlusconi, allora che cosa? Berlusconi sarebbe morto probabilmente, ma non c'è il COVID. Non c'è. L'altro giorno è arrivata da me una persona in terapia intensiva, veramente boccheggiante, dall'ambulanza. Gli avevano messo anche l'ossigeno. Gli ho tolto l'ossigeno. Gli ho detto, vedi che respira lo stesso. Vabbè, faceva molta fatica a respirare. Dopo poco credo che sia morta. Ma intanto davanti chiamello, ho tolto l'ossigeno e dicevo: non c'è problema, non c'è, non c'è. Nella mia terapia intensiva non c'è nessuno. È vuota, vuota, vuol dire che il virus è stato sconfitto, che il virus non c'è, ma non c'è neanche l'infarto, ma non c'è neanche l'ictus. Io non le vedo queste malattie. La televisione, il comitato tecnico scientifico, perché devono seminare paura e dicono che c'è l'infarto. L'ictus è sconfitto, non c'è, io non li vedo. Non ho in terapia intensiva, da me non c'è. Vuota. Ok, arriverà qualcuno che c'ha magari un dolore al braccio. L'altro giorno uno che stava zoppicando in ambulanza, non parlava, aveva mezzo viso bloccato. Gli ho detto: vai un po' a Cortina, fai una passeggiata, prendi un po' di tachipirina e vedrai che poi stai meglio. La moglie era disperata, disperata. Io ho detto: qui non la voglio perché sta bene, ha bisogno solo di un po' di Cortina e di un po' di tachipirina. E l'ho mandato via, non lo so che fine ha fatto, l'ho mandato via perché da me non c'è nessuno, è vuota la terapia intensiva, da me è vuota. Giorgio da Como, Giorgio da Como, vai. Giorgio. Dimmi tutto, Giuseppe. Io volevo parlare della città di Zingaria. Qual è la città di Zingaria? Dimmi. Hanno ammazzato due su una moto, no? L'altro discorso, oltre a essere la città dei delinquenti, perché ogni giorno stuprano una ragazza in circeo, due apistici, eccetera. I due sulla moto erano senza casco, certamente non avevano la patente, non avevano neanche la targa. Per cui quei due sulla moto, quei due disgraziati, uno morto e uno moribondo. C'entra quello, chi se ne frega? Ma cosa c'entra? Dio, non aveva neanche il casco. Se avessero avuto il casco e non erano a Zingaria, non morivano. Sì, non ho capito. Ma anche la cosa di Caivano tu la attribuisci al sud, anche la vicenda di Caivano. C'è, ma è chiaro, tutti i giorni c'è un fatto che io oramai faccio dei post, cronache del nord, Napoli, Pisticci, il Circeo, Bari ieri sera che hanno ammazzato quelli di 50 anni. Tu stai dicendo che la maggior parte di queste cose avvengono solo al sud? No, aspetta, ieri è capitato al Ginate, ma era nato a Catanzaro quello che hanno fatto regolarmente. La genia del sud, cioè le persone che hanno... Ma lo vedi, ma questi due erano col casco o senza casco? Perché lei è morta, certamente. Cioè tu dici che al sud l'etnia del sud, non so come definirla. Zingaria, no, il sud, Zingaria. Almeno le straniere, io sono amico di molte straniere, la chiamano Zingaria. Lei scrive su Libero? Lei scrive anche su Libero? Collabora molto. Io non scrivo Zingaria. Allora, il paese di Zingaria, il paese di Zingaria, tiriamo fuori gli ultimi quattro vicende: due minorenni stuprati a Pisticci, una al Circeo e questo qua ammazzato di 50 anni. E allora cosa fa? È un'altra cultura, un altro paese. Piano a casa loro. Ma una bomber, leggiti il libro, coglione. Leggiti il libro, coglione, prima di parlare male di una bomber. Leggiti il libro, coglione. E quel calato criminale di Verona, di dove era quell'altro assassino criminale? Ludwig. Ludwig, che cazzo di nome conosco? Stefanin. Ma finisci la parente che tu ce li hai a casa. Pazzani di dov'era? Toscano, dai. Quindi un po' più su e va bene. Chi era toscano? Il Pacciani, di dov'era? Il Pacciani di Napoli. Pacciani, ma sempre la zona di Zingaria. Lei ad esempio, che è un coglione, di dov'è? Lei, partiamo dalle persone presenti. Lei ad esempio, virgola, che è un coglione, virgola, di dov'è? Non sono certamente della città dei deficienti come te, perché tu sei un deficiente e non puoi essere che a Roma. Mamma perché mia, io che non sono deficiente vivo a Como, hai capito? Deficiente. Tu sei un deficiente, ma basta il cognome. Parienzo, Dio buono. Ernesto, che cognome. Dalla provincia di Foggia. Ernesto, provincia di Foggia. È del nord, Ernesto, cognome del nord. Dimmi Ernesto. Mi collego proprio a quest'ultimo intervento, certamente denota veramente grande intelligenza, però voglio dire che tu sei anche responsabile di queste cose, no? Sì, io sono responsabile, sì. Ma sì, che sono responsabile di cosa? Se tu mi dici qualsiasi fatto che accade in qualsiasi parte del sud, metti sempre, hai già ripartito con la musichetta, la tarantella. No, la musichetta non l'ho messa, la musichetta non l'hai messa all'inizio, poi te la sei ritirata perché evidentemente hai pensato, intanto è successo a Caivano, delimitiamo la cosa, delimitiamo. Ma quando succede ad Abbiate Grassi, allora tu mica dici Milano. Beh, io sono colpevole di che cosa? Allora sono responsabile di che cosa? Scusa, spiegami. Sei responsabile che vuoi sempre premettere Napoli di fronte a qualsiasi argomento. Io sono convinto che tu la mattina ti apri le cronache di Napoli masturbi ogni volta che arriva qualche. No, mi masturbo sì, ma non per Napoli, No, ma tu ti masturbi sulle notizie quando avvengono a Napoli. Perché le stesse cose che avvengono. Viva in la masturbazione, Italia, fermo là. Non le nomi. Viva la masturbazione oppure, sempre. Viva. E poi dai origine a qui. Viva sempre. Che viva, chiamano, ma stai zitto. Che prima di me, che fermo è là. Il tuo figlio spirituale. Fermo. La zanzara. Torna a scuola! Al suono delle campanelle i figli d'Europa varcheranno nuovamente le soglie degli istituti scolastici. Le strabilianti innovazioni apportate dalla ministra Azzolina e da tutto il governo sono innumerevoli. I banchi semoventi abituano le giovani menti al nomadismo del domani. Il distanziamento sociale rinvigorisce lo spirito produttivo. La mascherina stronca qualsivoglia respiro al di sopra delle proprie possibilità. La giornata del nuovo scolaro è scandita dalla disciplina. Ore 8, controllo temperatura. Ore 9, saluto alla bandiera europea. Ore 10, storia delle colpe di bianchi. Ore 11, algebra del debito eterno. Ore 12, tampone. Ore 13, pasto frugale con preghiera a Mattarella. Ore 14, tampone. Ore 15, geografia senza confini fascisti. Ore 16, esercizi ginnici nel proprio metro quadro. Ore 17, inglese per lavapiatti. Ore 18, doppio tampone. Genitori, non vi corrucciate. È una scuola sanificata, è una scuola inclusiva, è una scuola da tripla A. Guaggiù, si univa alla telefono a Zanzara da fallotto 0024 0024, oppure si univa a non sfacci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Luciani, vergognati, avete fatto diventare un mito il brasiliano. Adesso fa le storie, fa quello che la giustizia non gli rende merito perché voleva portare i fiori. E beh, sti cazzi, troppe ne hai fatte brasiliano, adesso rompi il cazzo. Zitto brasiliano, zitto. Fa le dirette il brasiliano direttamente dal lettuccio magico. E dice, ero l'idolo del povero Willy. Ma l'idolo di chi? Perché ti seguiva su Instagram? Anche io ti seguo, brasiliano, ma ti seguo per le cretinate che dici. Ti seguo per quello, per vedere qua dove puoi arrivare la tua testa. Per quello ti seguo, non perché sei il mio idolo, tutt'altro. L'hai creato tu sto mostro, Cruciani, allora? Li crei te tutti sti mostri, ste persone che si sentono sto cazzo. Cioè, ce ne sono tante, ma ti rendi conto, quell'altro fratellì. Oh, ma come siamo messi, Crucia? Ma non ti vergogni di creare ste persone, quell'altro, l'alieno, come si chiama? Quell'altro della droga. E salti criminali, Cruciani, e prendi in giro le brave persone. Questo quello che sei. Da quando seguo la Zanzara ho perso la ragazza, ho perso il lavoro, ho perso i soldi, ho perso tutto, Cruciani, gli amici, tutto. La Zanzara porta sfiga. Tiè, mortacci tua, tiè. Allora, cosa è successo per attivare lo sfogo di questo ascoltatore? È successo che il signor brasiliano, nella giornata, credo, di sabato, si è presentato ai funerali di Willy a Roma. Perché è incredibile, non ho capito perché è incredibile. È andato lì a deporre, voleva mettere un mazzo di fiori, voleva mettere un mazzo di fiori sulla bara. Una cosa molto semplice, un gesto semplice. Ha fatto la sciacallata, dai. Ma perché la sciacallata? Sciacallata voleva social, semplicemente per fare like. Ma per non fare dire like cazzate, su Instagram, non... su Facebook. E forse monetizzare un po'. Cioè, è evidente che seguire uno non vuol dire un cazzo. Ma io seguo Parenzo, ma che lo male stimo. C'è mettere... Lo seguo per vedere quali puttanate mette su Twitter e su Facebook. Io neanche seguo. Non lo degni nemmeno di questo. Non lo degni nemmeno di questo. In alcun modo. La notizia mi spezza il cuore. Allora, che cosa ho fatto? Ho preso questo mazzo di fiori e volevo metterlo sulla bara, dare un bacetto a Poro Willy sulla bara e a Namere. E questo, tutto ciò non mi è stato permesso. Il discorso è semplicemente questo. Volevo dare l'ultimo saluto, un bacetto sulla bara e andare via e telare, anche perché era pieno di gente. Mi è stato risposto che io mi dovevo togliere dalla strada, mi dovevo fermare lì, non mi dovevo muovere perché doveva arrivare il signor Conte. poi va all'attacco. Senti, lo Stato dov'era quando Willy è morto? Se moriva un bianco, Conte non sarebbe andato. Conte... effettivamente è strano che ci sono una marea di omicidi in Italia, ognuno ha una enfasi diversa. Perché Conte è andato al funerale perché di uno? Perché è un fatto simbolico. Ha un valore simbolico, dai, ma lo sì, anche chiunque. Lì, anche lì è... chiunque. Sì, ha un valore simbolico, che vuol dire, non è che c'è ancora, non si sa se l'hanno ammazzato, è una rissa, purtroppo è finita male. Storia, no, una rissa, è un'aggressione, è una d'accordo, rissa, un'aggressione. Va benissimo, però non è che c'è l'aggravante razziale, non si sa, cioè, anzi, non probabilmente non c'è. Non lo sai. E appunto, cioè, non è che ha un valore, è andato lì perché anche là è una cosa popolare, Conte ha voluto fare, no, ci sono le elezioni, è voluto andare lì. No, cioè, è bello, non però è che vai, non è che vai ai funerali di ogni persona però che viene ammazzata in giro per l'Italia, però, dai, insomma, su, dai. Quindi il sillogismo è: Conte vale quanto il Brasile o ma il no, suo contrario. No, ma non è che quello, cioè, se tu vai lì è comunque un atto di esibizionismo, no, perché in Italia ci sono una marea di omicidi, dai, lo sta, no, che c'entra lo Stato col fatto che c'è una rissa, due aggrediscono uno e lo ammazzano, ma che cazzo c'entra lo Stato? Può succedere a dove cavolo è successo, lì vicino Roma a Colleferro, come può succedere alla periferia di Parigi? Non è che Macron la mattina va al funerale di uno ammazzando la periferia come di Parigi, come dai, come sono no, le solite certo, cose all'italiana, certo, le buffonate all'italiana, diciamo la verità, le buffonate all'italiana, non è che vanno al funerale di ogni persona che purtroppo viene ammazzata a calci in faccia, dai. Beh, non è una cosa che per fortuna succede ogni giorno. Ma no, ma sì, nelle periferie, no, in giro per l'Europa succede spesso. Sì, ma qui non succede ogni giorno per fortuna. Vabbè, il presidente del Consiglio, vabbè, comunque lasciamo perdere, chi se ne frega, contro la dove gli pare, dai. Io voglio fare una domanda al signor Conte. Qual è la se domanda? Il povero Willy, domanda, invece sì, di essere un ragazzo di colore, fosse stato un ragazzo di colore, di colore bianco, colore signor bianco. Conte, secondo voi ci sarebbe ma stato? Ma io al signor Conte vorrei dire proprio questo. Ma cosa vuoi dire, Conte? Signor Brasile, Gianni da Rimini, vai. Tutti che vogliono dire delle cose, ma ognuno, perché ognuno non ha, come dire, contezza del ruolo? No, qui possono quello parlare tutti. Ma sì, qui possono dal primo per all'ultimo, dal primo all'ultimo, da Parenzo al Brasile, da Papa Renzo, beh, come sì, direbbe lui, al Brasile, una... dai. Comunque, ragazzi, a me questi OMS veramente mi fanno toccare proprio, mi fanno in Europa. In Europa ci sarà un record di morti a ottobre, novembre, dice, da toccarsi proprio i coglioni gli amici tuoi dell'OMS, che non è, speriamo che come al solito non azzecchino, perché no, cioè di solito non sono proprio no, precisissimi. L'altra volta non se n'erano neanche accorti e quindi io adesso dubito ci, che sì, se ne possano accorgere. Adesso ci dicono che ci sarà un record di morti, ci saranno ma altri sì, morti, figurati, cioè la grande previsione dell'OMS. No, tra l'altro no, l'altra cazzata che hanno detto, non ci si dovrebbe salutare nemmeno con il gomito perché non viene rispettata la sicurezza, ma andate a fare in culo l'OMS, noi li paghiamo per dire ste stronzate, no, perché c'è uno, c'è uno, non un portavoce, no, pur lo li pagano anche tu, in minima parte, no, purtroppo non li pagano gli l'Italia stati, qualche è euro, Gianni, poco, vai, Gianni poco, da Rimini, poco, vai, Gianni, dimmi, pronto, dimmi, Rosani? Gianni, dimmi, dimmi. Rosani, sì, li paghiamo noi, sono il li paghiamo noi equivale a ma io ho sempre lavorato, li paghiamo noi, sì, uguale, per come dire che uno non si deve salutare col gomito, che dice ma io ho sempre lavorato, ma che cazzo vuol dire, non è che ti puoi dire qualunque cosa, ma li paghiamo noi, il massimo del populismo, li paghiamo noi. Certo, e certo, quindi cosa vuol dire li paghiamo noi? Devono dire quello che dici tu. No, è un ma portavoce che dice non ci si dovrebbe salutare col li gomito, nemmeno col noi, gomito. Allora, ma li paghiamo perché facciano degli studi, delle ricerche? Ma che vuol dire li paghiamo noi? Andassero a fare in culo, dovrebbero chiudere, dovrebbero chiudere le OMS e non ci rompono più il cazzo. Dai, Gianni da Rimini con gli studi, con le previsioni, pronto, con due stronzi portavoce che ogni tanto si affacciano. Ma chi è questo? Un africano, un congolese, uno dell'Alaska. Ogni tanto c'è un tizio che arriva lì e dice: beh, sì, allora a marzo, aprile, novembre, ottobre, novembre ci saranno un sacco di morti in Europa. Ti è maledetto, maledetto menagramo. Gianni, dimmi. Allora, ciao Crosani, mi chiamo poi Giancarlo perché mi chiamano Gian, allora ho detto Gianni, però Giancarlo, comunque sono io il Gian. Ma sti cazzi, uguale, dai, su. Ah, va bene, allora ti volevo dire, riguardo prima il discorso dei transgender e trans, cambiamenti di sesso, allora? ti permetto che io sono anche per il matrimonio fra omosessuali, non c'è sì, nessun problema. Tu vai a però... trans? Eh? Tu vai a trans? No, ogni tanto vai del a trans, fatto... Ogni tanto ti fai qualche trans, Gian. No, vado, sono sempre andato a gnotte, a dire la verità, sempre, da quando avevo 16 anni. No, sì, sì. Non trans, che però. Trasmissione, no, ancora no, però non è detto, non è detto. All'età di 16 anni. Sì, ma i trans poi il paradosso è che il caso di Napoli, adesso sto naturalmente parlando di altre cose, cioè uno può pensare che l'Italia, no, è un paese dove i trans vengono odiati, no, al contrario, i trans vengono amati, dunque non c'è nessuna emergenza, nulla, i trans in Italia vengono amati, cioè è pieno di gente che va a trans quando si tratta di prostitute, in questo caso a Rimini c'è pieno, c'è ma pieno, sì, ma questo. Nessuno odia i trans, non sono odiati, è una puttanata questa qua, semplicemente perché un criminale voleva, capito, difendere la dignità della famiglia. Beh, lui li odiava. Dai, mai odiava. Quello è evidente. No, ma lui odiava la categoria vabbè, trans. Gianni, allora? Volevo specificare che siccome davano la colpa all'estrema destra, così, però io vi garantisco che se parlate con quello zoccolo duro di vecchi comunisti che adesso hanno 70-75 anni, quei figaioli degli anni 60-70, cioè, non vi dico che cosa dicono. Ma sì, dei ma c'è molto più odio nei confronti dei trans a sinistra che a destra, ma tutta la vita. Sì, sì, no, cioè, ma voglio dire ma che poi chi uguale, se ne frega, è soggettivo, cioè. Ci sono persone che hai capito Joy che da li Roma, odiano. Grazie, Gianni, Joy infatti, da Roma. Ma vai. Infatti, Vladimir Luxuria l'ha candidato Fratelli d'Italia. Joy, no? Da Roma, Joy da Roma, che vai, Joy, è? L'odio dei trans a destra a sinistra invece Alessandro che a destra. Su quali basi lo dici? Alessandro da Pescara, vai, Alessandro, dimmi. Sì, grazie, io volevo dire una cosa a Gottardo. Allora, sono un padre di famiglia, ho tre figli, una moglie, donna, difendo la famiglia e sarei un assassino solo perché difendo la famiglia tradizionale? No, no, chi semina odio? Se tu semini odio, lei ha detto a Cruciani, tu sei andato a Verona a difendere la famiglia, certo, e quindi sei un seminatore di odio. No. Ma dove sta scritto? Allora, ma Cruciani è come il Brasile. Cruciani come il Brasile è andato lì a farsi fare i selfie. Ci volete tappare la bocca? Ci volete tappare no, la vorrei bocca? Tappare, no, scusa, ma aspetta, fermo un attimo. Io voglio capire se Alessandro è uno di quelli che sostiene che i gay sono contro natura come quello là. No, certo. io sostengo che i gay possono fare quello che cazzo vogliono. Io però non sono gay. Difendo la famiglia tradizionale. La posso difendere oppure no? Ma tu puoi difendere chi? Non c'è bisogno di te. Anche due gay però sono famiglia, secondo ma me. Chi due... la mette in pericolo? Cioè, due gay non sono famiglia, secondo te. Due gay che stanno insieme non fanno una famiglia, Alessandro, no? Perché non possono procreare. Fanno un'altra famiglia, non quella tradizionale. Ma che vuol dire? Ma chi se ne frega della famiglia tradizionale? Ma come che se ne frega? Ma chi se ne frega? Succedono le peggio cose nella famiglia tradizionale. Succedono le peggiori turpitudini. Io non odio nessuno, non semino odio da nessuna parte ma lei del mondo. No, ma chi dice che i trans sono diversi, il femminile, ma gli insulti che il fratello della ragazza morta. Ma è chiaro, ma che io però mi notano un pregiudizio contro gli omosessuali e i transessuali, ma questo lo dice, voglio dire, i protagonisti l'hanno detto, no? Sono non io. Sono d'accordo con lei, però la frase qua di Gottardo che ha detto a Cruciani, tu vai a Verona a difendere la famiglia, vabbè, quindi hai seminato Joy odio. Joy da Roma, vai Joy, dimmi. Dimmi. Joint Venture. Joint Venture. Fermi là. Mo torniamo. Fermi là. Fineco. È tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Adesso quando vado in giro guardo ogni donna, mi guardo il naso e guardo se è inclinato a destra o inclinato a sinistra per capire se è una zozzona o no. Ormai c'ho questa curiosità, però mi sorge un dubbio: deve essere inclinato alla sinistra mia che la guardo o il suo della donna? Questa cosa non l'ho capita. Per una volta devo dare ragione ai Cruciani, io sono uno scandista da 20 anni, io e mia moglie siamo di sinistra, anzi di estrema sinistra, wow! Capito Parenzo, da 20 anni, da 20 anni, eppure sono di estrema sinistra. Cioè, lo scambismo che tu avvicini al sovranismo, non si capisce, no, anzi, al contrario, il sovranismo è una cosa, no, che si rinchiude in se stesso, mentre lì c'è apertura, c'è scambio. Dunque, beh, è proprio una filosofia. Una doppia morale, ma che c'è, come una nel doppia ministro, morale? Il primo ministro conservatore inglese Major, famosissimo, che poi fu beccato. Ma che c'entra in uno la doppia morale? Sessuale. Non c'è nessuna doppia morale. È proprio nella quasi nella parola stessa, ce cioè lo dice la parola stessa. Scambismo, gli scambi, l'apertura, no, è proprio la questione etimologica. Sì, è al contrario del sovranismo, dunque è evidente. Beh, che ma c'è... quelli che si fanno frustare, però, no? Beh, quelli che si fanno calpestare. Che c'entra con lo scambismo? Quelli che si fanno frustare e calpestare, secondo te, sono di destra. Beh, cioè, spesso sono detto, dicevano di votare Lega, io non lo so, io registro, sono qui a fare il cronista. Il compagno Io mi ricordo perfettamente il compagno Berlusconi e il compagno Fede, per esempio, di estrema sinistra. Ma che c'entra? Bunga è sicuramente di sinistra. Ma quelli scopavano, mica facevano le cose. Ma cosa c'entra? Qui stiamo parlando della chi viene calpestato, secondo Davide. Chi si fa, chi si fa calpestare i coglioni? Chi si fa frustare? Quelle persone intervistate dicevano di aver votato per la Lega. E basta, ma io non ho nulla di incontrato. Cioè, va benissimo. Cioè, tu dici che il masochismo e il l'essere dominati, eccetera, eccetera, è direttamente proporzionale. Guarda, io registro quello che ascolto, quello che capisco. Siamo qui a fare i cronisti. Questo abbiamo capito. Abbiamo capito spesso questo. Intanto la Martani subisce l'ennesimo verbale per la mascherina. Un'altra Marta. Senti. Marta col botto, quella, Sono qui a Trastevere. C'è un sacco di gente, chiaramente. E niente, ho preso l'ennesimo verbale. Ormai sono diventata abbonata dei verbali perché non indosso la mascherina. Perché io mi rifiuto di accettare queste regole che non stanno né in piedi né in terra. Ho partecipato a talmente tanti assembramenti fino adesso senza prendermi assolutamente nulla. Voglio stare in mezzo agli assembramenti. Ma che non si sia presa nulla non è vero, perché ha ragione. È poveretta, è disadattata. Guarda come ha ragione. Qualcosa si è presa sicuro. Qualcosa, sicuro. Tu eviteresti gli assembramenti. Guarda, io sono in mezzo all'assembramento di Trastevere. Io no, non li evito. Anzi, io voglio stare proprio in mezzo. In mezzo proprio agli assembramenti voglio stare. Enzo dalla provincia di Cuneo, vai Enzo, dimmi Enzo. Eccomi, ciao Crucio, ciao David. Chiedo e imploro, tra virgolette, insomma, aiuto. Cioè? Oramai, perché io non faccio più l'amore da oramai quasi 17 anni. Ma figuriamoci, è la verità, è la pura verità. È una cazzata spaventosa, dai. Mi vergogno a dirlo, è una cazzata, è 17 anni che non scopri. Quanti anni hai, scusami? 36. Sì, vabbè, dai, non diciamo cazzate, dai, su, non diciamo puttanate, dai. Cioè, cosa ti porta a non credermi? Ma no, cioè, da 19, da quando avevi 19 anni, dai, su. No, esatto, neanche se ti cade l'uccello, il primo e ultimo amore fu allora. Sì, ma esatto. Tu in 17 anni non avevi più scopato. Esatto, sì. E perché, scusa, mettiamo che sia vero, Perché mi fanno letteralmente schifo le mignotte, ecco. Ma è perché uno non ho capito, perché l'unica senso possibilità sono le mignotte. Porco, ecco. Ah, nel senso che non riesce ad avere altre relazioni, quindi sì, non puoi toccare le zizze, Enzo, scusami un attimo, perché io dovrei credere a questa puttanata mentre è chiaro che tu stai qui per cercare di pigliarci per il culo, ma noi siamo molto più furbi, siamo molto più furbi di te. Tu sei semplicemente un coglione, punto e basta. Non ti credo. In qualità di forma sì, è vero. Sì, no, in qualità di coglione. No, è vero. Fatto è finito. Ciao. Francesca da Roma, vai Francesca. Pronto? Francesca, tu mi ricordi però qualcuno, mi ricordi qualcuno, cara Francesca, se non sbaglio, vai. Sì, sono una vecchia conoscenza, sono quella della figa pelosa, Cruciani. Beh, Francesca da Roma, è i ripussi, e lo dice anche orgogliosa. No, e non solo è sono ripussi, quella della figa pelosa. È quella pelosa. Anche delle ascelle pelose, attenzione, è anche quella delle ascelle pelose. Figa e ascelle pelose. Che orrore. Cioè, che e l'hai, orrore. Hai mantenuto per tutta l'estate questa tua composizione, questa tua combo, oppure no? Cioè, ma non fai esatto, caldo. Stavo chiamando apposta per questo. Cioè? Che è successo? Che ti è successo? Non sei più rock, non sei più pelosa? Che è successo? No, sono pelosa. Mi sono trovata a dover fare una scelta tattica perché la mia fidanzata mi ha chiesto di depilarmi la figa. Cioè la tua fidanzata, perché spieghiamolo bene, tu sei, adesso non ricordo la precedente telefonata, tu sei bisex. Sono sei poliamorosa e bisex. Poliamorosa bene. E bisex. Evviva. Benissimo, evviva dice Lorenzo. E la tua bene. Fidanzata, cioè la tua, una che frequenti naturalmente, voleva la figa depilata, giusto? Esatto, mamma mia. Esatto. Mamma mia. E tu hai ceduto. Scusami. E tu hai ceduto. Andiamo per gradi. Allora, i fidanzati, come hanno reagito? Perché allora ci saranno stati di fidanzati che se avevano dei rapporti sessuali con questa, io spero uno alla volta, ma poi sono cazzi suoi, invece magari amavano la figa pelosa, non è che c'è una discriminazione, esatto, questa esatto, dai, guarda i peli della figa. Aspetta, fammi sentire. Io stavo chiamando giusto appunto per smentire quello che avete detto rispetto al bisex. bisessualità la settimana scorsa. Cioè io la bisessualità l'ho esaltata, sto dicendo semplicemente. Voi dicevate che raddoppia le possibilità, invece a volte si sì, pone a dei cleavage, a cioè, delle scelte potenti. Cioè tu stai dicendo, che in questo caso ha limitato la tua bisessualità, ha limitato le tue scelte, perché fosse per te saresti rimasta pelosa. Esatto, invece, vabbè, ho capito, però non è che dovevi, dovevi cedere a una fidanzata. Non ho capito proprio perché questa qua non voleva i piedi, questa qua. Non... perché non trovava quello che doveva trovare. Cioè? Che cosa? cioè il clitoride. Beh, ho capito, che palla, come direbbe Parenzo. Si perdeva, si perdeva nella foresta. Parenzo non diceva più niente, guardi. Parenzo è silente ad ascoltare questa augusta conversazione tra voi tre. Vi ascolta con rispetto, ma almeno non tiratemi in ballo delle vostre porcine. Ammettilo che c'era pure a te una cosa del genere, dai. Ma cos'è che sta scherzando? Non ho capito. Allora, Francesca, cerchiamo di riassumere la questione. Allora, Francesca è una che di solito è un personaggio molto particolare, perché sostiene, anzi, ecco, molto particolare, ci ha mandato giusto, anche delle foto su WhatsApp, di essere foto molto, mandato, molto pelosa, sia nella è un figa, sia nella una figa, povera esibizionista. E sia nelle ma serie. A me queste foto, com'è che queste foto a me non sono arrivate? Non le ha mandate perché le ha mandate alla WhatsApp della Zanzara per dimostrare che era lei, okay, che era veramente perfetto, molto pelosa, come diceva. Dunque, io caso... non ci credo, vorrei vedere queste va foto. Va bene, te le manderò. Caso più unico che raro, certo, caso più unico che raro, peli anche sulle ascelle. La sua fidanzata le ha detto: no, io non trovo il clitoride, dunque depilati la figa. E lei ha eseguito. Esatto. Ha eseguito. Dopo una settimana non è democratico. Di appoggiamenti, ho eseguito. Ha eseguito, ma adesso ma stanno ricrescendo oppure no? Sì, adesso stanno ricrescendo, perché comunque bastava tagliare un po' per orientarsi, diciamo. Però io voglio capire una cosa, no, tu sei perfettamente bisex, cioè tu scopi sia con gli uomini che con le donne indifferentemente, oppure ti piace prevalentemente il maschio o la femmina? No, diciamo che la mia attrazione è verso le persone, non è verso dei genitali particolari. Questo è interessante, cioè l'attrazione è verso le persone, cioè a te se ti può piacere indifferentemente un maschio o una donna, non sei attratto né dalla figa né dal cazzo, diciamo, questa è la... La... Dunque la bisessualità però ha dei vantaggi. Tu hai più scelta. Dunque quello che diciamo prima, che è ripreso dalla famosa frase di Woody Allen, ha un fondo di verità. Cioè tu hai più scelta rispetto agli altri, rispetto a Parenzo, che invece è fedele ad una parrocchia, molto per esempio, bene, molto, molto bene, giusto, posso dire, molto sì, fedele molto ad una parrocchia, bene, molto bene, che è quella femminile, a un'azienda. Benissimo. Io, ecco, esatto. Mentre nella vita lui è, come dire, riceve soldi da diverse aziende e non se ne vergogna, no, nella vita professionale, nella vita privata, esatto, è fedele ad un'azienda, è un'azienda sola. Esatto, e dunque invece tu hai più aziende di riferimento, dunque vabbè, hai più possibilità, ci sono dei vantaggi, però... no o no? Sì, però questo pone le persone di fronte a delle scelte, infatti tutti i miei fidanzati si sono lamentati della situazione. Però vedi Francesca, dovevi fare una piattaforma Rousseau, i tuoi fidanzati e fidanzate dovevano votare certo, per decidere se depilare o no, anche perché prima di tornare a essere molto folta, esatto, quanto tempo ci mette? Un mese e mezzo, due. Un mese ma e mezzo, chi due. Chi se ne frega di questa interessante questo. Di signora? A te piace però, più essere leccata o leccare? Questo è molto interessante. Mamma. Per quello che riguarda. Lecco. No, le donne. Mamma le donne. Mia, no, mamma dipende mamma cosa lecchi, diciamo. La figa, diciamo, la vagina, chiamiamola come. No, con le donne. Uguale. Leccare. Leccare, più leccare, che essere leccata. Ma a un certo punto Francesca da Roma non le manca il cazzo durante un rapporto con una donna? Mia, ecco, ma questo l'altro che c'entra, questo ma il cazzo è democratico, piace a tutti, Gottardo. Sì, questo è bello, questo è bello. Senti, con quante persone sei stato? Cioè, fai anche delle orge? Scusi, fai signora, anche... se intervengo, ma chiedo scusa se ogni tanto provo a puntualizzarvi nella conversazione delle cose. A me, francamente, no. Ma non voglio togliere niente a nessuno e non voglio discriminare nessuno. Non c'è problema. No, ma ho capito, ma non attaccare, ma non piace, non gli piace. È stata così, piace a tutti, sommessamente mi intrometto nella conversazione per dire semplicemente che per carità, andate avanti, però non c'è problema. Scusa, ma tu fai anche situazioni multiple, cioè orge, eccetera, 3, 4, 5, 6, 7, cioè quali situazioni ti piacciono? No, vabbè, non esageriamo. Vabbè, sì, l'avrai fatto in 3, in 4, cioè quanti anni hai, scusami? 27 anni. Sì, certo. Certo, e dunque con quante persone al massimo l'hai fatto? Non lo so, non è che fai l'appello. No, non fai l'appello, però dunque saranno situazioni orgiastiche, okay, 4, 5, 6. E se, sì, poliamorosa significa che tu hai degli affetti, cioè anche degli affetti con qualcuno? Sì, certo, sono relazioni emotive di qualità. Sia non con sono, uomini non che sono con chiamate, donne, diciamo, indifferentemente con uomini e donne. Per te diciamo è esattamente la stessa cosa, cioè ti puoi fidanzare con una donna come ti puoi fidanzare con un uomo. Esatto, l'unica cosa da gestire è la gelosia della gente. Capito, Davide, vedi. Questo è il punto poi fondamentale. Senta, ma Francesca da Roma, posso fare una domanda così? Di primo acchito, lei la rapa di più, Parenzo, Cruciani o la mia voce? No, la tua voce. Però, comunque, qual è la voce più arrapante dei tre? Cruciani, ovviamente. Ciao Francesco, ti saluto. Grazie. Franco da Cagliari, vai Franco, dimmi. Allora, Cruciani, dimmi. Mi senti bene? Sì. Ok, la mia è una domanda specialistica riguardante matrimoni omosessuali e famiglie tradizionali. Ora, dimmi. Io non riesco a capire questo. Sentimi bene? Sì, ti sto ascoltando. Una famiglia tradizionale, maschio e femmina, hanno rapporti sessuali in modo tradizionale. Dopo, se sono abbastanza liberi, magari dopo una trombatina, la moglie glielo succhia. Vabbè, questo che c'è, questo cosa c'è? Ascolta, no, ma mi devi ascoltare. Vabbè, dai, dimmi, forza, vai avanti. Quando il rapporto è fra due maschi, uno farà la femmina e uno farà il maschio. Tendenzialmente è così, sì. Tendenzialmente, ma quando il maschio gliela mette in culo e tira fuori il cazzo, la femmina maschio glielo succhia con la merda. Ma cosa c'entra? Ma cosa c'entra adesso? Per far capire alla gente che quel rapporto lì è contro natura, che cosa? Esatto! Oh, là volevamo arrivare. Dal punto di vista medico è una grossa coglionata. Mio. Ci sono, a parte che ci sono anche i preservativi, e comunque non è che contro. Ma dai, su questa è la teoria della De Mari. Dai, Franco, ciao. Allora, è molto incazzato perché fanno un collegamento tra quello che è successo a Caivano e la legge sull'omofobia, cioè chi pronuncia delle parole. Mario Adinolfi, popolo della famiglia, eccoci qui, caro Mario, eccoci qui. Ciao, bentornati, bentrovati. Eccoci qua. Allora, perché sei incazzato, caro Mario? Perché giustamente, secondo me, giustamente sei incazzato perché molti parlano, allora approviamo subito la legge contro l'omofobia dopo quello che è successo a Caivano. Ma che c'entra un caso chiaro? Quello è un omicidio. Dello stesso criminale. Ma quello è un omicidio. Il protagonista dell'omicidio lo ha detto. Ma a parte che non ha detto un cazzo. Lo odiamo perché era un femminino, un trans. E allora anche se lo diamo, che gli vuoi dare 10 anni di più? Una che gli vuoi dare? Sicuramente. Ma c'è certo. Già l'aggravante per futili motivi. Mario, rispondi tu, io non ce la faccio. Non ce la faccio più. Sono abbastanza sconcertato più che altro dalla modalità da sciacalli veramente con cui si sono lanciati tutti gli opinionisti alla moda per dire bisogna allora fare la legge sull'omofobia, quando è evidentissimo che la eventuale approvazione della legge Zan non aggiungerebbe nulla all'agenda processuale. Ma darebbe un bel segnale nulla a tutti quelli che dicono che la transessualità e l'omosessualità sono delle cose allora contro natura. Parlare di questo, cioè, ma perché se uno dice contro, scusa un attimo, allora attenzione, Parenzo vuole arrivare a dire se uno dice che i gay sono contro natura, certo, va condannato secondo te? Certo. Ma certo che, ma tu sei pazzo totale. Certo. Ma tu sei pazzo furioso. E offendi delle persone, certo. Ma dai, su. Allora, chiamala offesa di legge. Chiamala come ti pare. Vaglielo a dire a un bambino che scopre di essere omosessuale. Aspetta. Vaglielo a dire a un bambino che scopre di essere, quando è alle prese con la sua intimità, che gli dici che è un diverso. Vaglielo a dire tu che è contro natura a un bambino che ha appena scoperto che gli piace un suo compagno di classe maschio, e tu arrivi tu e gli dici no, ma tu sei contro natura. Quella è un'opinione, ma quale opinione? Non è che vuoi mandare in galera o condannare quello, e poi si ammazza quello, come è successo qualche giorno fa. Mario, dimmi. Però perché sul fatto di Caivano, quando anche diciamo un sacerdote che di solito va sempre sulle prime pagine dei giornali, questa volta no, che è Don Maurizio Patriciello, che è il parroco di quella ragazza che è morta, che l'ha battezzata, gli ha fatto la prima comunione, che la conosce perfettamente, si è dovuto becchiare un comunicato di Arcigay durissimo contro, perché Don Maurizio Patriciello ha detto con l'omofobia sta roba non c'entra niente. Ma certo che non c'entra niente. Niente. chi mi siete? Ma come fa a dirlo? Ma come fa a dirlo, Mario? Ma come faccio a dirlo? È evidentissimo. Ma voleva ammazzarle tutte e due perché erano, perché c'è un trans di mezzo. Come cazzo fai a dire che non c'è, che l'omofobia non c'entra? Non esiste. Questa affermazione proprio non, non esiste, perché almeno va accertato questo elemento. Ma sono le rilevazioni, l'ha detto lui dai primi rilievi, l'ha detto lui agli investigatori. Non l'ha detto. Guardate gli atti, oggi sono usciti gli atti, perché l'avvocato difende l'indifendibile. La frase in cui avrei nessuna dichiarazione era infetta, è falsa, non è in nessun verbale, in nessuna dichiarazione. È inventata ad uso dei giornali, non c'è in nessun atto, è inventata. Ma tu adesso deve essere anche verificato l'effettivo speronamento, perché non c'è neanche quello. È morta dal freddo. È morta dal freddo. Antico. Malore antico. Si sono come Pinelli. C'è stato un incidente. Però... Ma sì, si è suicidata. Si è suicidata, sai? Si è suicidata per fare un dispetto a te. Per metterti un culo a te, si è suicidata. Vi consiglio, da persona che non è mai stata rinviata a giudizio quando ha parlato, di stare attenti quando dite che è stata provocata la morte di una persona e di un altro con un meccanismo che non conoscete, che non sapete, di cui non sapete niente. Non lo fate. Quando siete dentro un problema ideologico, guardate i fatti. Tu stai dicendo, però, scusami Mario, tu stai però allargando la cosa, tu stai dicendo che in realtà di omicidi o cose gravi per motivi di omofobia, di odio nei confronti dei trans ce ne sono pochi in Italia. Io sto dicendo un altro. No, ma in generale dico, in generale, lascia perdere il caso. Sì. Fammi sentire bene questa cosa. Di questa vicenda non gliene frega niente. Ti frega solo di fare la pubblicità sulla legge Zan e quindi di inventare i presupposti per cui questo fatto sia funzionale all'atto politico di dire serve quella legge. E questo è vergognoso, è da sciacalli, è da avvoltoi. Cioè tu dici tutti quelli che dalla Pascale, anche la Meloni stessa, eccetera, dicono... una dichiarazione che non c'era, stanno cavalcando fatti che non sono verificati e io dico loro, fate... pregate il Dio che abbiate alla fine almeno la ragione su come sono andati effettivamente i fatti. Perché se però come fai a dire che non è che, come fai a dire che non è un omicidio, che ha diciamo, un elemento di odio, di odio nei confronti del trans? La prima cosa diciamo. Che si è accertata è che quelle frasi non sono in nessun atto. Volevo darle una lezione. Quelle frasi sono state inventate. Volevo darle una lezione. La seconda questione che è certa è che lui non poteva e non era animato da un elemento di odio nei confronti della sorella, ma ce l'aveva con l'altro signore. La terza questione è che non si sa ancora se questo speronamento è mai avvenuto o no. Quindi la verità ma attenti a dichiarare quello ma che perché dire devi dire queste cose? Attento a giustificare qualsiasi cosa, quindi il fratello della vittima, se odiava il trans, in fondo il trans se l'era andato a cercare. Se l'era andato a cercare il trans, solo sciagallando per legittimare la legge. Scusa, ma tu stiamo parlando? Va bene. Che invece è una porcata contro la libertà di pensiero. Allora io dico una cosa: questo non aggiunge nulla. E anche la libertà di perseguitare i trans, perché non c'è la libertà di perseguitare i trans? Parla, per esempio, Gottardo, perché perseguitavano Mario? Perché questa coppia era perseguitata tanto che non potevano neanche vivere insieme? Ti pare normale? Ti pare normale che io sbatto di casa mia figlia perché sta con un trans? Ti pare una cosa normale? Non l'hanno sbattuta di casa, è andata a vivere con questo. Lo sai tu. Erano così stronze che vivevano in varie abitazioni. Le ha cresciute in una situazione di degrado assoluto, qual è quella zona lì. Leggiate le storie prima di parlare. Tua figlia. Non fate ideologia. Degrado sicuro. Il film che vi siete fatti in testa da Padova quando non ne sapete un cazzo. Ma quale va? Femminiello è il tipico insulto. Femminiello. Ma come ne sapevamo niente? Sapere, è la tipica espressione. Tu. No, io sto citando. E lo sai tu. Allora, Mario, fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. Perché ieri stava in quella casa, don Maurizio Pascello. Allora, ok, d'accordo. Casa, Mario, fermi tutti. Non come voi tu a fare gli spettacolini, d'accordo? Scusami. Scusami. In quella casa, sì, a sopportare il dolore di una famiglia devastata, con una figlia morta e l'altro in carcere, non col vostro spettacolino sul dolore. Vabbè, che c'entra? Che quello sia un coglione che andava a inseguire la sorella che stava con un trans, su questo non c'è dubbio. Possiamo dire che è un coglione, forse anche un criminale? Se hai commesso. No, lo possiamo dire, certo, questo almeno lo possiamo dire, no? Facciamo la legge Zan. Ma sì, ma certo, quella è una puttanata. Quella è una puttanata. Ma scusami. Allora, scusami, fermi tutti. Tua figlia che ha una storia con un trans, tu lo potresti sopportare? Come la prenderesti? Come la prenderesti? Dimmi male, come la prenderesti male, tu? La prenderei male. Perché? Ovviamente la prenderei male perché sono i nipotini, perché voglio una famiglia che ha dentro le condizioni. E se quella lo ama, se tua figlia ama un trans, ama una persona. Ragazzi, è uno come se ne avesse sotto male, che come puoi immaginare? Mi fanno da decine di anni. Ma smettete di farmi la stessa no, domanda. No, vabbè, sempre. No, perché? Una figlia ovviamente la ami in qualsiasi condizione. Va bene. Se mi chiedi se me lo auguro, cioè sarebbe una tragedia auguro, per te. Sarebbe una tragedia per te. Mi dispiacerebbe molto, mi dispiacerebbe molto. Perché vuoi una famiglia tradizionale, i figli, eccetera, i nipoti. Che fosse serena in una costruzione di vita che prevede anche. Ma magari è serena, magari ama questo qua. Cioè magari ama un trans, perché non ci può essere amore, secondo te, non ho capito. Raccontatemi se quella coppia era una coppia serena, quella che è stata. Cioè, secondo te tra. Aspetta, secondo te tra Ciro e quella là che è morta non c'era amore? Non c'era amore. Raccontare, conoscete bene i fatti prima di parlare. No, ma ho capito, ma secondo te non c'era amore tra quei due? Ma non c'era amore tra quei due? Secondo te è impossibile un amore tra due persone così? C'è cioè, tra una donna e un trans? Non credo che fosse una situazione di massima serenità. Ho capito quello, sulla base di cosa? Ma sulla base di cosa? Adinolfi a Caviano in questo momento, eh? Caviano è andato a parlare con i genitori. Ma che roba è? Leggo. E non ha interesse. Guarda che la massima serenità io non la vedo in quella famiglia lì. Io non la vedo nel fratello la massima serenità, francamente, nella famiglia di origine di Maria Paola. Perché ci sono varie ragioni per cui c'è tanta sofferenza nel mondo, nelle famiglie, vabbè, in alcuni contesti cioè, sociali, secondo te, ma vogliamo una parlare di questo? No, perché vabbè, se no parliamo no, d'altro. No, eh? No, no. Ciao Mario, d'abbraccio, ciao. Dove sei, Veneti? Grazie. Dove sei, Veneti? Napoli e Africa. Africa. Africa. Africa. Dove sei, Veneti? La zanzara. La zanzara della Radio 24, giusto? Parenzo, novità da Simona. Come stai? Ti manco? Ma chi è questa? Ma lo sai che adesso, oltre a chiedermi i pompini qui, mi chiedono se possono leccare i miei piedi. Io ho dei piedi bellissimi, Parenzo. Vogliono leccare i miei piedi, vogliono essere sottomessi, vogliono fare gli schiavi, vogliono essere comandati. Ma che me ne frega veramente? Io non lo so, guarda, qui siamo proprio oltre. Mamma mia, i piedi. A te piacciono i piedi, Parenzo? Ma non me ne frega nulla dei suoi piedi, signora. Ma chi se ne frega? Non l'ho neanche mai vista in faccia. Mi sono arrivati dei messaggi allucinanti di gente disposta a leccare i miei piedi. Beh, non mi stupisce. Cioè, io voglio vedere se l'altra Simona, sì, che non si sa da dove è spuntata, forse da sotto un cavolo, anche lei, diciamo, ha queste attitudini. Vorrei tanto capire, guarda. Parenzo? Ancora? E poi dico, no? Questa tipa, Simona, le due dice Simone, che ha le due i siti Simone online, le fasce, le medaglie. Eh beh, sì, ha vinto dei premi. Tutti i titoli, no? Di Pompinara, voglio dire. Ma io non ho bisogno di queste cose, perché comunque a prescindere sono la numero uno, non ho bisogno dei social o comunque di internet. Fra Lorenzo! La sua Simona, c'era Simone. Ogni volta fa Parenzo. Ma chi è? Ma io non ho idea di chi sia. È una mia amica, una signora che si è messa sul mercato anche della prostituzione per guadagnare dei quattrini. Cosa no, non è una prostituta, è una che fa l'impiegata. Ma no, può fare quello che vuole commessa, per me. Benissimo. E fa anche dei pompini a pagamento. Ma potrà o no? Non hanno tutti quanti, come dire, la tua, no, il tuo reddito. Uno si procura da vivere anche facendo i pompini. Non è triste, perché è triste? No, non è triste. Fare questa cosa qui per ma non vivere, è triste, anche assolutamente, anche dai, su. Massimo da Roma, vai Massimo, dimmi. Massimo, mamma mia, dopo Adinolfi, per me Adinolfi, per te Adinolfi, non ho capito per te Adinolfi. Per me Adinolfi via per culo, non parla così per cui pensa, per me non è finto. Beh, Adinolfi ha precisato delle cose su quello che è avvenuto a Caivano, che stiamo cercando, siamo tutti là a dire bisogna fare una legge, no, non bisogna fare nessuna legge nuova, va tenuto in carcere un assassino, va tenuto in carcere, ci sono già le leggi, non c'è bisogno di inventarsi leggi nuove, dai, di dare no a uno che dice che ammazza un omosessuale 10 anni di più perché ammazza un omosessuale, ma che cazzo dici, dai, ci deve essere Massimo, l'aggravante, dai, ma quale aggravante, c'è già i futili motivi. Futili motivi. Ma c'è tutto, Massimo. Come c'è, dici, quello, ci deve essere anche l'aggravante. E poi però escono lo stesso. Dai, Massimo, dimmi. Beh, questo è un altro discorso. Dimmi, Massimo. Allora? David, sta trasmissione è diventata l'eutanasia della cultura italiana. Lo so. Della cultura. Sì, lo so. Questa è cultura. Questa è cultura, capito? La vera cultura è qui. La vera cultura popolare, la vera cultura ce l'hai vicino a te, che c'hai Gottardo e Parenzo che te possono insegnare. Ma uno qualcosa è a Padova, l'altro a Roma, figuriamoci. Vabbè, che quanto sono vicini. Comunque, David, Cruciani è un periodo che si è messo a fare il Taormina o il naso di turno. Fate il Taormina del Brasile. Ma no, non c'è bisogno di fare il Taormina. Fate il Taormina de tanti arti. Mo farà il Taormina pure di Quaresima, quello che ha chiamato l'altra settimana. Ma figuriamoci. Taormina che vuol dire non difendo nessuno, mica faccio l'avvocato. No, cioè, tu difendi la fescia, che non difendi nessuno. Ma chi difenderei? Tu quando parla uno stronzo come me, dici che sono emarginato sociale perché sono una persona più bravo dell'altri. Ma non lo so, quando Massimo, non ti conosco. Non ti conosco. Magari sei un criminale. Non lo so. Io antichi i crimini che ho. Che ne so io, mica c'ho la tua fedina penale, non lo so, ma non mi interessa. Che vuoi dire? Non ho capito che cosa vuoi dire. Che difendo, che difendo i criminali. Sì, ma tu hai mandato un messaggio, ti abbiamo richiamato, certo. Allora, cioè, hai chiamato tu, normale che chiamiamo noi, non è che lasciamo le persone lì a chiamare in attesa. Allora, ma non ho capito che vuoi. Proprio così oggi. Non è sì, ma che cosa vuoi? Spiegami, non ho capito che cosa vuoi. Volevo dire a Davide che ne pensava del referendum, perché quest'altra settimana c'è referendum. Ma chi se ne frega? Luigi dalla provincia di Chieti. Non ce ne frega un cazzo referendum a noi. Luigi dalla provincia di Chieti, vai a sentire un'altra trasmissione. Federico da Ascoli Piceno, vai. Federico. Ciao Giuseppe. Dimmi. Io ho un problema, volevo chiedervi un consiglio. Praticamente mio figlio è tornato a casa piangendo, dicendo che non vuole più dormire dalla madre. Perché durante la notte dorme nello stesso letto insieme al fidanzato e calma. Mamma mia. Qui innanzitutto non è l'assistente sociale, sono i servizi sociali, eccetera eccetera. Però è un grande vedi la famiglia tradizionale. Questa è la famiglia tradizionale. Beh, tradizionale non troppo, perché in realtà poi si sono separati. Allora, io non ho capito, tuo figlio quanti anni ha, Federico? 10 anni. 10 anni, non vuole più andare dalla madre perché l'ha sentita scopare con un nuovo fidanzato? Questa è la sostanza. Ha visto il pisello del fidanzato. Federico, dai, su, adesso oggettivamente questo qua mi sembra anche qui una cazzata, francamente. No, te lo giuro, ci siamo anche conosciuti dal vivo con Ruggero Benigni. Ma chiama i carabinieri. Però, Federico, chiama i carabinieri. Non lo so, dai. Fai qualcosa, non è che devi chiamare qui per risolvere questa situazione. Cosa vuoi che ti dica? Io sono seguito dal giudice che vuole fare il CTO. Ma che cos'è il CTO? Che cos'è il CTO? Che non lo so. L'incidente probatorio. L'incidente probatorio per vuole sentire il minore. Però Federico, scusami. Beh, mi sembra una storia incredibile, però. Sì, va bene, d'accordo. Va benissimo che tu la racconti qui, però io non posso verificare nulla. Cioè, tu stai dicendo urbi e torbi, Federico da Ascoli Piceno, che tuo figlio non vuole andare dalla madre perché 1, 2, 3, 4, 5. Perché vede esplicitamente delle scene di sesso tra la tua ex moglie, evidentemente sei separato, divorziato, non lo so, e il suo nuovo fidanzato. E io cosa posso fare? Noi non possiamo sapere. È roba di tribunali, non sappiamo della storia vera. E non abbiamo la versione di lei. Non sappiamo se tu lo vuoi usare contro la tua ex moglie. Esatto, insomma, non sappiamo nulla. Non sappiamo nulla. Storia. Non è che possiamo essere coinvolti. L'unica cosa che sappiamo è che a questa trasmissione chiamano degli spostati. Che magari non è il suo caso. Io non sono spostato. No, esatto. Dico l'unico dato. Guardi, quando si fanno delle indagini bisogna avere dei dati certi. Allora, io posso anche essere in buona fede e pensare che lei sia in buona fede, ma un dato certo lo abbiamo. Tu pensi che siano spostato? No, te lo spiego in 40 secondi. Diciamolo tutta. Tu pensi che Federico D'Ascoli siano spostato? banale, te la spiego. Dimmi. Noi abbiamo quello che si chiama uno storico di 10 anni. Io personalmente ho 10 anni di esperienza e dico che in 10 anni di esperienza, in questa trasmissione, tra le 18:37 e le 20:49, chiamano 99 su 100 degli spostati. No, questo non è vero. Lei probabilmente rientra in quell'1% di persona che non è uno spostato e che denuncia una cosa vera, ma io per questo la ringrazio. Esperienza mi dice che perfetto, che esatto, potrebbe esatto, essere esatto. Invece sì, potrebbe rientrare nel 99. Benissimo, però perfetto. Io dico, Federico, adesso con tutto il rispetto e con tutta la delicatezza del caso, io adesso non mi posso mettere a disquisire sul fatto che tu sostieni che tuo figlio ha visto il pisello del fidanzato della tua ex moglie. No, io volevo solo sapere se la madre perde la madre potestà. Ma non lo so, ma vanno a chiedere il giudice, ma probabilmente ci vai di mezzo tu che racconti in pubblico questa roba qui. Ti voglio dare un suggerimento, cioè, ma se tu perché lo racconta mio figlio, io quello che ma dice l'ho capito, ma tu lo stai legge. Dicendo qui alla radio, ma d'accordo, ci ma tuo figlio ci sono 2 milioni di ascoltatori, dai, amico caro, c'è una percentuale piuttosto elevata che anche la sua ex moglie ascolta in questa trasmissione, esatto, cioè, vabbè, ma tanto non ho detto il cognome, ma la verità lei la ma sa, ma mio figlio Federico anche, l'ascoli piceno, c'è la voce. Io non ho capito una cosa, tu accusi tua moglie di fare delle porcherie davanti a tuo figlio, questa è una cosa incredibile, questa cosa qua è quello che accusa il bambino, non è che l'accuso io, ma vedete la voi col giudice. Zanzara, che è un contenitore incredibile di follie, ma scusi, sa, ma questa è la verità, ma la vuole verità, denunziare una cosa, lascialo denunziare, ma se vuole, ma chiami il telefono azzurro, la Zanzara sì, è quanto vero, di più azzurro, lontano sì, dalla moralità, dall'etica, dal buon gusto, scusa, questo anche cazzo, è vero, dai, ma come ti viene in me, io glielo toglierei anche a lei il figlio, cioè uno che chiama, per paradosso ovviamente, sì, uno che chiama la trasmissione più inadatta, se c'è una trasmissione che non è adatta a tutto è questa qua, ha un discorso di moralità, di correttezza, te dici, no? Esatto. Cioè, questa cosa. E invece Federico dice vuole correttezza, vuole giustizia, giusto Federico? Vuole giustizia, la trasmissione è una trasmissione vera. Sì, ci sono anche avvocati ad ascoltare. Sì, questo è vero. Allora, avvocati, rivolgetevi, cioè se volete chiamare Federico, hai bisogno di un avvocato, Federico, non ho capito. Beh, io sinceramente non è che prendo un grande stipendio, però hai bisogno pure di un avvocato. Vabbè, chiediamo al Taormina, chiede sostegno, se per caso chiede sostegno, vuoi l'avvocato Taormina? Io se vuoi ti faccio chiamare dall'avvocato Taormina, se vuoi. Chiama Trucco. Sì, io ma guarda, Trucco, è una storia terribile, guarda. Cioè, abbiamo già sequestrato la casa della madre. Ma come hai sequestrato la casa della madre? La storia torbida, guarda, torbida. Ma che ne sai? Ma hai appena saputo. E molto probabilmente c'è di mezzo il Partito Democratico, è molto. Ma che c'entra quella data? È a Bibbiano. Scusi, ma sua moglie vota PD. Federico, adesso l'avvocato. Tua moglie vota PD, credo, la tua ex moglie vota PD, non lo so, potrebbe votare PD, no? Probabilmente sì, probabilmente sì. Beh, abbiamo azzeccato tutto, chiederemo a Zingaretti il sequestro della sede del Partito Democratico, guarda, ciao, ciao, ciao. Ciao Federico, ciao. Abbiamo buttato in cacciara, ragazzi. Ma Giorgio mia, da Gaglia, un'altra querela, Giorgio, no, noi non c'entriamo un cazzo. Ma Giorgio sì, da Gaglia, che dai spazio a questa gente. Ma io non spazio a nessuno, insomma, ma io vado a testimoniarlo, se me lo chiedono io sono il primo a dirlo. Perché io voglio testimoniare contro questa trasmissione, il primo a dirlo sarò. Ma hai partecipato, hai fatto l'imitazione di Taormina. Stesso, c'è un rapporto di bipolarismo totale. Sì, sì, sarò Giorgio il primo in sede giudiziaria dirò. Ci siete? Dimmi Giorgio, allora, ciao. Premesso che io ascolto la Zanzara in podcast, quindi sono indietro di qualche sera, sì, dimmi, ho sentito Parenzo affermare che lo scambismo è una pratica fatta prevalentemente da gente di destra, insomma. Sì, no, ha detto questo più volte, sì, che le porcherie, soprattutto la sottomissione, ma non solo lo scambismo, esatto, le cose diciamo più perverse del sesso appartengono, secondo lui, alla sfera dei sovranisti, della destra. Sì, cioè, facile, esatto, probabile. Allora, niente, siccome io con la mia signora, con mia moglie, pratichiamo lo scambismo da oltre 20 anni, da 20 anni. Siamo una coppia di sinistra, ma anche di sinistra, insomma, abbastanza marcata, e quindi ho chiamato solo per smentire Parenzo, perché ma bisogna dire, Giorgio, io forse prima non stavi ascoltando, io ho detto esattamente questo, ho detto non c'è più nulla, non c'è niente di più lontano dal sovranismo, dal nazionalismo, eccetera, dello scambismo, perché lo scambismo è di per sé qualcosa che allarga, libertario, cioè libertario, cioè che senza confini, no? C'è il confine tra due persone, e invece poi c'è il l'orgia, esatto. L'orgia in realtà è la gente che si mischia, e dunque c'è l'extracomunitario che viene in Italia, non c'è differenza di colore, di razza, eccetera, si scopa e basta nella maniera più aperta possibile. Dirò, insomma, che in 20 anni ne abbiamo conosciuto un po' di... Scusa di Giorgio, ma voi siete scambisti da più di 20 anni, torneremo immediatamente su questa vicenda molto interessante a Cagliari, che la Sardegna magari non ci sono molte coppie scambiste, o sì, caro Giorgio? No, ti assicuro che c'è un retroterra abbastanza diffuso. Ecco, ma voi che cosa, chi frequentate? Coppie? Fate orge anche? No, dire? Noi frequentiamo coppie, abbiamo partecipato a feste. Feste con quante persone? Feste con quante persone? Anche con 10-15 coppie. Ma 10-15 coppie. A te piace vedere tua moglie che scopa con altri? Sì, mi piace vedere questo, a lei piace vedere me, insomma. Ma vai anche con gli uomini? Sì, frequentiamo anche singoli, abbiamo frequentato singoli. Anche singoli. Cioè singoli nel senso che tu, singoli persone che vengono a casa tua o voi andate a casa loro? Casa mia no, è sacra perché non si sa mai. Ci sono i figli anche magari, no? Esatto. Fermi tutti, torniamo con Giorgio da Cagliari, resta lì, grande storia di scambismo in Sardegna. La Sardegna scambista, fermi tutti. Chiedo scusa, un momento, chiedo scusa, pubblicità? La Zanzara. Cruciani è come il Marchese del Grillo. Proprietà, ricchezze, si alza quando cazzo gli pare, va in redazione, sgrida Poli, questo, quell'altro, prepara la trasmissione, fa gli scherzi, le chiamate, come il Marchese del Grillo. E poi c'è anche Parenzo, Aronne Piperno, ebanista. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, le mortacci tua, quest'estate ho avuto 5 avventure e 3 donne avevano i peli attorno ai capezzi. Quando li ho visti non ho potuto fare a meno che pensare a voi e a questo argomento che avete affrontato più volte a luglio. In 35 anni ne avevo incontrate solo 2 di donne con i peli attorno ai capezzi, ma 3 in pochi giorni è una cosa inaccettabile. Io adoro il pelo sulla fica e sotto le ascelle, ma attorno ai capezzoli non se può. Tu sei un adoratore dei piedi, io dei semi naturali abbondanti, ai quali dedico molto tempo, molto molto tempo. Comunque l'anno scorso c'avevo sta pischella, che in effetti era frigida, e c'aveva il naso a destra, come diceva il signore là, Rolando. Ora, io a questo signore non gli vorrei dare ragione, però, capito? Poi ho anche i piedi brutti, quindi non erano nemmeno belli da leccare. Vabbè. Allora, torniamo alla Sardegna scambista con Giorgio, che ci ha impreziosito della sua testimonianza, Giorgio da Cagliari, perché ha detto, beh sì, ti ha innanzitutto smentito, perché tu sei convinto che il mondo della cosiddetta perversione, che poi in realtà lo diciamo, almeno io lo dico in senso positivo, il mondo della trasgressione sia identificabile secondo te in un mondo di gente che vota Lega, Fratelli d'Italia o non so che cosa. In realtà, no, io lo dicevo un po' ironizzando, cioè quando ci sento questi qui che si fanno tirare i calci nelle palle, allora dico scusi per chi vota, cioè ironizzando, sì, e qualche volta poi è uscito fuori, ho votato Salvini, ho votato 5 Stelle, esatto. Spiegato Giorgio che in realtà loro sono molto di sinistra, lui e la moglie. Scusami Giorgio, abbiamo conosciuto tantissime coppie che sono di sinistra, con cui abbiamo stretto anche rapporti di amicizia, indipendentemente da quello. Ecco, voi però avete amici? Ha figli? Sì, certo, aveva figli. Sì, ho 2 figli. I figli sanno di queste vostre attività? Perché dovrebbero saperlo? Chiaramente no, Parenzo, i tuoi figli sanno di cosa combini sotto le lenzuola. Non credo. Giusto, no, è giusto. È la stessa cosa, Davide, è la stessa cosa. I tuoi pregiudizi ti portano a pensare il contrario, ma è la stessa cosa che tu scopri. Quindi con 2, dice, con 3, mamma, con 4, è la stessa cosa, non importa. Quindi lei a un certo punto una sera, ad esempio, io mercoledì sera andrò al cinema, dico vado al cinema con mia moglie a vedere un film di anche io vado molto al cinema. Invece ad esempio mercoledì dice vado al cinema e invece ci sono questi ritrovi in 20-25. Evviva, cosa vuoi che dica? Evviva. No, ma perché lo dovresti dire a tuo figlio che vai a, che vai a trombare con altre 20 coppie, carità, non lo capivo, con 15 coppie? Sai, non ho a me piace vedere la mamma che sta con un altro e dice evviva, che cosa dice? Ma uno? Perché evviva te lo dovresti dire? È uno solo, dice anzi, evviva, dovresti poterlo dire, è solo il nostro tabù che ci impedisce la grande liberazione di questo mondo, la grande confessione da questo punto di vista. Giorgio, anche tu sei consapevole che se tu dicessi questa cosa nel tuo luogo di lavoro o con qualche tuo amico che non capisce, chiaramente ti sentiresti in imbarazzo e in difficoltà. No. La riservatezza è d'obbligo, no? Mi sembra una cosa anche normale. Scusa, a te piace guardare, per esempio? Sei uno di quelli che piace guardare? Oppure sì, a volte sì, ma abbiamo ma sei anche comprato, sei anche abbiamo attivo. Anche sono anche attivo, abbiamo incontrato anche delle singole, quindi delle donne ho avuto singole, il piacere di avere due donne tutte per me. Ed è successo anche il contrario, insomma. Ma cosa cerca tua moglie? Cioè, cosa cercate voi? Il contrario significa due singoli, cioè due singoli. E tua moglie con chi è stata? Con quante persone è stata in contemporanea, diciamo? Con due, tre col sottoscritto. Due, tre insieme al sottoscritto, cioè in tre, un tris. Beh, sarebbe bello vedere, adesso non voglio dire niente, insomma, la consorte compagna di Parenzo con un tris, con un tris. Secondo me si divertirebbe anche. Ma andate a quel paese, ma per carità. Secondo me si potrebbe divertire anche lei, così. Ma vent'anni fa non ci pensavo neanche io, Parenzo, mai dire mai, no? Ah, tu vent'anni fa non ci pensavi, quando ti sei avvicinato a questo mondo? Quando ti sei avvicinato? Ma una ventina d'anni, adesso insomma stiamo appendendo anche le scarpette al chiodo perché l'età avanza e quindi non è più. Però da vent'anni, ma l'avete fatto per come dire, per così, per rinvigorire il matrimonio, per salvarlo? Bravissimo, cioè il matrimonio si rafforza molto di più, il rapporto si rafforza. Si rafforza. Perché si rafforza? Sì. Si rafforza perché si ci sente più, non lo so, più uniti, più vicini, poi si scopa molto meglio anche quando si è soli, perché si pensa a tutte le porcherie, insomma è tutta una cosa da vivere, è poi difficile. Ma tua moglie preferisce, come dire, quelli che hanno il pisello più lungo di te oppure tutti? No, mai fatte considerazioni di questo tipo. Sceglierete le persone in base a qualcosa anche, non in base al pisello lungo, diciamo. No, certamente la presenza è molto importante, la pulizia, insomma, però non il calibro, diciamo, non il calibro. Non necessariamente. Anche in un periodo siamo andati alla ricerca, perché era una fantasia anche quella. Cioè, si è andata alla ricerca di che cosa? Del calibro grosso? Del calibro grosso. E abbiamo anche realizzato questa. Però, di fantasia. Amico della Sardegna, Febal, da queste frequenze, l'altro giorno sosteneva che ormai prendere un cazzo in culo non è più un tabù. Per lei è ancora un tabù durante le orge oppure ogni tanto ha sperimentato? Evidentemente no. Sono eterosessuale io, quindi non gli piace prendere il cazzo in culo, molto non mi piace. Mai provato neanche una volta. Hai aiutato tua moglie nell'accompagnamento? Lei ha carie in bocca? Ha delle carie in bocca, non avendo mai provato comunque il sesso anale? Sì, anche se sono curate, però le ho avute. Le ha avute, dunque la teoria di poeta non è provata. Ciao amico mio, ciao Giorgio, grazie. È ora di chiamare il Brasile, avanti tutta, vai col Brasile, vai che è tardi, se no quello... Oh yeah. Ma che hai combinato? Fratelli. Fratelli mortacci, manco se può più dormire in pace in casa mia nocci. Che ho fatto? Ma come si fa a dormire al pomeriggio, però la sera? Ma io lavoro la mattina, papà, adesso. Ma che lavori? Ma fai un cazzo tutto il giorno che lavori, stai sempre lì a dormire a fare. Ma che è sta storia? Cioè, sei andato a mettere i fiori e ti hanno impedito di mettere i fiori sulla Mi hanno fatto entrare, dice un po' entrare a Brasilia. Dico, ma mio è un locale, ho detto. Alle guardie, chi hai detto? Adigos. Che ti hanno subito visto, è impossibile non vederti. Diciamo. No, più che altro ci stavano i giornalisti, appena mi hanno visto, io sono drizzati i capelli, si sentiva. Tutte le foto mi hanno fatto, dicevano il brasiliano, si sono girati pure le guardie, e i capri di cielo, mi hanno proprio preso, mi hanno detto mettete quante muove, dico come mi muovo, mi fa guarda che un po' entra a Brasilia, dico guardi agente, io vorrei soltanto entrare, dare l'ultimo saluto a Willy, mettere i fiori e dare un bacetto a bar e me ne vado a casa, mi ha detto Brasilia non si può fare, in quel mentre arrivava coso lì, allenatore di Italia, come si chiama, Conte? No, ma come Conte? Presidente del Consiglio, Presidente del Consiglio. Ah, non è allenatore di Italia? Era quello. Adesso dell'Inter, casomai, Conte. Antonio, è dell'Inter, bravo, è arrivato Antonio Conte col parrucchino. E niente, ho detto vabbè facciamo così, invece di staffa e napoletanate, mandatemi via. Mi hanno scortato addirittura, hanno scortato alla macchina, ti ho detto tutto, Giuseppe. Alla fine ci hai quasi guadagnato da sta storia, diciamo. Perché ci ho guadagnato? Che ci ho guadagnato, Giuseppe? Che ne so, pubblicità, cosa? Prime pagine, interviste. No, ma più che altro mi hanno detto che sono uno che lucra su uno come me che lucra. Brasile è stata un po' una sciacallata, dai. Una piccola sciacallata. Social. Dai, Brasile, dai. Perché tu sapevi che c'erano i giornalisti. La prima cosa che ci hai detto è le foto che ti hanno anche fatto un po' rifare. Ti è piaciuto? Dillo che ti è piaciuto l'attacco di Gottardo, l'attacco di Gottardo al Brasile. Siamo io ti considero un amico, ma hai sbagliato. Hai sbagliato stavolta, hai peccato. Ma che sbagliato? Visibilità su un funerale. Questo ragazzo mi seguiva sui social e quindi mi hanno scritto i suoi amici, mi hanno detto Brasilia, questo li seguiva, mi hanno fatto lo screen e mi seguiva effettivamente. Dice, era il suo idolo, sino il brasiliano stava a casa, amico mio. Ha capito, Gottardo? Ho capito. Potevi andare il giorno dopo al cimitero quando non c'erano i fotografi. Non è che bisogna farsi pubblicità su tutto. Vabbè, comunque, fatto sta che a me da pubblicità io me la posso fare in Gottardo, mille volte. Ma perché, Gottardo, io non ho capito una cosa, ma perché attacchi il Brasile su questa cosa qua? Ha fatto un gesto che non è che dice... Posso dire che ha fatto un gesto? È andato a mettere un mazzo di fiori come un cittadino qualsiasi. Ma se il giorno dopo andasse nel silenzio della sua privacy invece di andare a favore di telecamera, di fotografi, un minuto prima che arrivava Giuseppe Conte? O no? Posso avere un sospetto? Posso avere un sospetto che sia stata una sciacallata? Alle ore 10 sarebbe iniziata la celebrazione. Io sono arrivato alle 10 per un quarto, regà. Perciò di che cazzo stiamo a parlare? Sono arrivato col mio bel mazzo di fiori, tranquillo. E purtroppo è successo quello che è successo. Purtroppo. Ma ho capito, purtroppo. Ma ragazzi, ma d'altra parte il Brasile è pure uno di quelli che ha detto qui da noi la settimana scorsa che bisogna fare un po' di giustizia su questa cosa. E lui vorrebbe addirittura la giustizia sommaria nei confronti degli assassini. No, fai da te proprio questi. A parte questi indegni. Ma che messaggio è? Ma Brasile anche questo. Che cazzo di messaggio è? Tu hai migliaia di bracci che ti seguono. Stanno ai bracci? Questi se sono chiamati di via di carcere stanno al precauzionale. Questi dovrebbero metterli insieme ai detenuti comuni. Sì. Io spero che quando vado in un'infermeria, perché soltanto in infermeria si possono prendere questi infami, degli agenti possano chiudere un occhio e qualcuno li visti di botte, perché questi meritano cosa quello. Dice? Cosa dico? Questi, ma cosa dice? Ma come si permette? Questi gli devi mettere le scope in culo. Ma cosa come ti permette? Ma è lo Stato. Io stavo carcerato alle Bibbia, gli mettevo tutto il giorno le scope al culo. Paparezzo, capito? Ma che roba è? Ma che linguaggio è? Ma questo è un linguaggio di una persona che sta a vivere per strada, che a sti indegni farebbe un bucio di culo. Ma quale indegni? Ma basta la strada, devi andare in biblioteca un po'. Ma devi in biblioteca, perdere tempo a legge. Ma te imparo io a vivere a Paparezzo. Devi civilizzarti un po'. Basta con questa storia. Ma a me non mi devi cagare. Che linguaggio è? Ma che linguaggio è? Tu devi imparare a confrontarti in modo civile, in modo dialettico, io vorrei vedere se fosse successo a qualche parente vostro. C'è il diritto, non c'è la vendetta. Brasile, tu stai dando un messaggio del cazzo a migliaia di ragazzi. I ragazzi ti prendono a modello, non puoi dire queste robe. Io ti sparo in bocca. Allora c'è una cosa, però, una volta il Brasile ha fatto un gesto, diciamo, di pacifico e l'hanno messo in mezzo perché dice che lui dà il cattivo esempio, eccetera. Aveva fatto un gesto pacifico, allora lo volete criminale. Ha fatto un gesto bello, portare i fiori a una persona, e voi come al solito volete esteriore che rimanga criminale. Voi tu ha fatto migliaia di like, è andato a caccia di like, ha avuto i suoi like, ha avuto la sua foto, manda a fanculo Gottardo, su, cioè, no? Io culo a Gottardo, fratellino, ma che cazzo. Io spero che non mi non no, perché io mi chiamo Clemente, fratellino, non metto in culo per niente, proprio, ti dico la verità. Però scusa Brasile, è vero pure che hai fatto un gesto, diciamo, normale e come al solito ti hanno messo lì nell'angolo, considerato alla stregua di quelli che hanno... Ma quello che miro del culo a me è questo qua, è soltanto questo, Giuseppe, perché veramente... Ma tu devi dire... No, ma scusa, perché potevi farlo in un altro modo, potevi telefonare agli amici e dire agli amici, guardate, vi porto domani in silenzio, come grande consuetudine mia, con discrezione... Ma invece ha fatto un gesto spontaneo, discrezione. Che è discreto, secondo te, brasiliano. E questo dà l'idea del cambiamento suo, vero, capito? Invece di al culo, se incontriamo un giorno dove faccio vedere il cambiamento, ma io non voglio vedere ti faccio vedere che cambiamento che c'ho. Non voglio vedere niente, vorrei che tu facessi un percorso personale, umano, anche interno. Caro Papa Renzo, il percorso mio lo sto facendo anche piuttosto bene. Però non gli puoi romper cazzo per un mazzo dei fiori, su, Gottardo, il brasiliano fa comodo criminale, mo adesso hanno cambiato, prima ero un fascista. Ma a te fanno comodi like, dai. A te fanno comodi like, sei andato a prenderti un mazzo di like al funerale di un ragazzino. Io sono 88.000, amico mio, perciò sono rimasto, ecco, vedi che, lì. Vedi che li conti, vedi che ma li conti tutti i giorni, lavoro, e ogni giorno dici come faccio a arrivare a 200.000 che sennò non mi invitano. Io mica faccio il pappone giornalaio come te, io ce lavoro su Instagram, ma non scrivo. Fai meno di quella del Covid, fai meno di quella. Bello sarebbe il confronto tra il brasiliano e quella del Covid. In pochi giorni quella del Covid ha fatto più di 200.000, quella del Covid. Vabbè, comunque la legge del brasiliano è questa, l'avevamo già sentita, cioè la vendetta in carcere, mi sembra chiaro. Ancora non si sa chi è ovvio. È ovvio. Ciao ciao. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Attenzione, attenzione, sono tornate le puttane in via Stalingrado a Bologna! Che fighe, voglio sempre più fighe, sempre più fighe! Che voglia di cazzo, mamma mia! Ciao Crux, qui Pietro Longo. Dimmi Pietro. E perché lavorare? Perché io e te lavoriamo, Parenzo lavora, quando c'è una signorina tra le tante assolutamente sconosciuta che grazie a un po' di pubblicità sui social, il vecchio passaparola, è riuscita ad avere la bellezza di 600 paganti a 15 euro su OnlyFans, il che vuol dire un guadagno pulito di 8.000 euro al mese a 19 anni per una ragazza non particolarmente bella che semplicemente mostra un po' il suo corpo e fa un po' la porca. Abbiamo sbagliato tutto, amico mio. Abbiamo sbagliato tutto. No, non abbiamo sbagliato tutto, è la normalità. È la normalità delle cose. È la normalità delle cose. Una che ha detto il Covid non c'è Covid, prende in qualche ora 200, 250, 300 mila followers. Sì, ma poi finirà tutto. Sull'Instagram, poi finirà, guadagnerà magari qualche lira, qualche urino e poi finisce il mondo dello showbiz dei tempi contemporanei. Una volta c'era lo showbiz dove non c'era l'internet, oggi c'è l'internet, dunque si aprono più possibilità per tutti, questo sì. Qualcuno dice l'ignoranza, oggi c'è un professore universitario sempre di Palermo che dice possibile che questa ignorante del Covid apra un profilo su Instagram e prenda 200-300 mila, io invece dopo anni di lavoro, di cose, di lavoro scientifico e tutto ho 50 mila follower, amico mio, ma fatene una ragione, che cazzo vuoi? Cioè è normale che sia così, che seguono te che fai il professore universitario? No, seguono quella del Covid, se la seguono per curiosità, la seguono perché vogliono ridere, non è che tutti quanti bisogna essere seriosi con le lezioni del professore universitario di, che non so di che parla, di antifascismo, di comunità, di non so che cosa. Non ci rompere i coglioni con questi discorsi da bigotto, dai, su. Cristina da Lucca, vai, Cristina da Lucca. Dimmi, Cristina. Buonasera. Innanzitutto volevo dire che grazie a mio figlio si è aperto un orizzonte durante il periodo del lockdown. Io ho scoperto la zanzara. Molto bene, vedi Parenzo, il figlio, gran porco sicuramente, o comunque appassionato. Assolutamente no, però gran porco mica, non è mica. Vive la sua vita di 25enne. Allora, ecco, io dicevo Cristina. Parte, scusa. Io lo dicevo in senso positivo, non è. No, ma lo dicevo in senso positivo. È un po' eccessiva la definizione. Beh, è un maialino, dai, un maiale. Ma che vive la sua vita, assolutamente. Allora, infatti, io stavo intervenendo proprio in questo senso, dicendo che grazie a questa opportunità, dove peraltro devo dire che durante il periodo del lockdown anche il vostro modo di affrontare i problemi ha aiutato a capire e non avevamo delle scivolate che giustamente Parenzo sottolinea e non sbaglia. Allora? Però io non voglio entrare proprio in questo bigottismo, anche se non gli appartiene come cultura, alla Parenzo, perché devo dire che da 60 anni ho capito e mi consentite, quando ho voglia di farlo, di capire che esiste assolutamente un altro mondo e che mi ha consentito di maturare assolutamente. Per esempio, vi faccio un esempio, perché sennò qui si va sul generico e non si capisce niente. No, ma tutte queste, anche le esagerazioni, fanno parte di un contesto che ormai è mutato. Per esempio, quali sono le esagerazioni secondo te? Io ho 60 anni e certe cose, come giustamente dice Parenzo, che ne ha meno di me, non venivano dette, non venivano fatte. Certo. Io parto da un presupposto che vorrei condivideste tutti, che era di San Paolo e diceva vagliate tutto e trattenete ciò che è buono. No, stia attento. Amico mio, vagliate tutto e trattenete ciò che è buono. Brasile, ora io ho ciò che è buono, mi permetta Cruciani, il fatto che questa società è cambiata e io non è che mi voglio adeguare. Scusami, io capisco che tu non ti voglia adeguare, però amica mia, qui di discorsi filosofici ci possono anche essere, di discorsi alti, però a un certo punto... Perdonami, io non volevo essere filosofica, anzi è molto pragmatico, a me ha fatto crescere questo tipo di approccio a questo tipo di trasmissione, perché mi ha fatto considerare un'umanità che io non conoscevo, poi tutto sommato critico, ma lei lo sa che lasciami finire, scusa. Ho un approccio, non esagero nei termini, misericordioso, nel senso che capisco che esiste un altro. Allora non mi faccio le seghe mentali all'apparenzo che interviene semplicemente per dire oddio. Senta, signora mia, signora mia, dopo sta pippa sociologica che ci sta facendo, signora, se qui chiama uno che dice che gli piace far vedere la propria moglie, il mio è cristianesimo vissuto, è una cosa molto diversa. Non è un convegno di derisa. Esatto, sì, primo, sì. Se io da 10 anni a questa parte sento gente che vuol farsi ingroppare la moglie da altre 4 persone, il mio non è bigottismo, dico andate a fare in culo. Lei poi può fare tutte. Ma potresti anche non esistere in quella trasmissione, perché non servi a nulla. Senta, come attacca, signora. Come attacca. Io volevo parlare con Cruciani. Gentile nonnina, semplicemente una cosa. Cosa? Partendo da una posizione lei è single, signora? No, io sono sposata con un figlio. E tuo marito dov'è? Tuo marito? Mio marito è con me. Dove che, che sta facendo? Ma si sta facendo i fatti suoi. Io non sono venuta a dire, un altro funzionario dello Stato. Pure un altro funzionario dello Stato. Ma non lo dica. Ma non lo dica, perché però, gli fa fare brutta figura se la moglie telefona in diretta alla Zanzara, un altro funzionario ma dello Stato. Ma questo dal tuo punto di vista che è assolutamente inutile, a me non serve il tuo, aspetta, a me serve il mio. Cristina, aspetta, aspetta, la moglie di un altro funzionario dello Stato, sia ferma lì. Allora abbiamo giusto appunto in collegamento Veronica Venna, transessuale, porno attrice, prostituta. Buonasera. Ce l'hai tutte, ce l'hai. Veronica, le hai tutte. Che tu sia benedetta. Hai 30 anni, fai questa attività da 11 anni, ti prostituisci da 11 anni, fai anche la porno attrice, guadagni sicuramente di più facendo la escort. Hai detto una volta che volevi ingropparti Salvini, non so se ce l'hai fatto oppure no, non credo. Non sopporti i clienti stranieri, giusto? Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, grande Giuseppe, Veronica. Bene, non c'è male. Tu non sopporti gli stranieri, ma sei brasiliana. Ma cosa c'entra io essere straniera e non sopportare le straniere? Comunque, scusa. No, non c'entra niente. È una domanda che ti faccio. Tu non sopporti i clienti? Comunque, i clienti stranieri, perché io non c'ho, come hai detto tu, io non c'ho niente contro, perché alla fine sono brasiliana. Però comunque, i clienti stranieri che chiamano noi escort generalmente chiamano sempre per rompere le scatole. Quindi dici gli immigrati, i clandestini, clandestini o presunti tali. Esatto. Per cui tu non li ricevi, non voglio neanche vicino a casa mia. Capito, non vuole immigrati clandestini vicino a casa sua, caro Davide, non li vuole, potrà o non potrà. Pure la transrazista abbiamo è una che non vuole gli immigrati vicino a casa sua, ma saranno affari suoi, no? Che cazzo, è possibile? Anche perché un immigrato si deve venire a un paese, comunque si deve fare qualcosa per collaborare con il governo, per lavorare come fai tu. Signora, lei fa un lavoro, signora, lei che fa la morale ai clandestini, fa un lavoro che, per carità, io pago contributo uguali, ma quale contributo? Lei fa la prostituta, ma qui abbiamo pure la prostituta che fa la morale ai clandestini. I clandestini non pagano i contributi. Il mondo contrario. Allora, le persone che vogliono venire a fare qualcosa per socializzare, per fare qualcosa di bello, per cercare una miglioria. E non rubare, Come si vede, come non vediamo comunque il video. I video su Facebook, sull'internet, che rubano, che fanno tutto quello che fanno. Scusami. Lei paga i contributi e stanno sui coglioni quelli che vengono qui e non fanno un cazzo. Sarà padrona o non sarà la padrona, caro Davide, non lo so. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che cosa che mamma mia? È tutto al contrario qua dentro. C'è una signora che legittimamente fa la prostituta transessuale, oh, va benissimo, evviva, viene qui a fare la morale ai clandestini. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Prostituta o non fare la prostituta? È un lavoro come un altro, è un lavoro come un altro. Certo, è il lavoro più vecchio di tutti, comunque non è che sono in regola, comunque cosa c'entra? E vorrebbe essere in regola, vorrebbe essere in regola. Essere una cittadina, essere una cittadina, fare le cose, perché comunque quello che facciamo non c'entra nulla con il nostro carattere. Scusami, no? cara amica mia, la maggior parte degli uomini che vengono da te, che cosa fanno? Si fanno inculare, immagino, si fanno dominare, eccetera. La maggior parte quante... Allora, come di solito, non voglio essere ipocrita, quelli che cercano la transessuale cercano magari non per farsi inculare, però magari per giocare. Sì, però l'80% è passivo. Diciamo che 80%, 70% sì, dei clienti passivi, che cercano, passivi. Sì, sono passivi. E anche sposati, anche sposati, immagino. Diciamo, no? Che 90% sono sui sposi, sono uomini sposati. Vogliamo dire, per il piacere di Parenzo, le dimensioni del tuo pisello? Di quanti centimetri è il tuo pisello? 20 centimetri, bello, duro, sempre in tiro. Ma che meraviglia, ma che notizia. Vorresti provare, tesoro mio. Cara, la ringrazio molto. Penso che stasera mi mangerò semplicemente delle tagliatelle coi funghi. Grazie, mi accontento di quello. Ma cosa c'entra? Ha detto, scusa. Ma detto di no, posso dire di no, che non mi interessa. Scusami, sono ancora libero di dire. Guarda che quelli che dicono che non interessano, che fanno tutta questa polemica, sono garantire. Quelli che primi, di più, i primi che vanno lì a subire. Cose che anche Dio non si crede poi. Tu sei molto credente, vero? Sei molto credente, vero Veronica? Sì, io sono cattolica, la mia famiglia è cattolica, sente, certo. Sono cattolica. Sì, certo, sono una prostituta, certo, comunque ho detto si sente dei valori, dei principi, scusami. Si vede, non vuole gli immigrati clandestini, certo, si vede i principi. Scusami, valori, sei certo. Molto cattolica nel senso che preghi ogni tanto, no? Giusto? Certo, sempre, tutti sempre. I giorni, la mattina, la sera per ringraziare, tutto, sempre. Sai che fa molto di più questa signora di Papa Francesco rispetto a, diciamo, all'uomo, dite? All'umanità, diciamo, alla felicità dell'umanità. Rispetto alla felicità dell'umanità. Questa signora che... Dimmi, sì, Papa Francesco per me è stato uno dei migliori, perché comunque aspetta che ti tutte sei... le regole nel cattolicismo, perché Dio comunque si prega una cosa, amore, quindi lui ha fatto tutta una cosa diversa che tutti gli altri non hanno. Bene, scusami, fatto. Che sei viva voce con l'auricolare, scusami amica mia. No, perché si sentiva un rimbombo. Senti, tu hai la regolarizzazione della prostituzione, si può sapere in tutto quanto guadagni più o meno con questo mestiere? Cioè più o meno, ogni tanto li perdo, ogni tanto non lo so, perdo il conti, sai, quindi 10.000 al mese li guadagni, 10.000 al mese dipende, li fai. Magari si può fare 10.000, 15, 7, 6, non viviamo comunque in un periodo che c'è crisi economica, non sappiamo, non capiamo certo. Più niente quello che può succedere. Senti, ti piacciono le gangbang, mi sembra di capire, no? Da io che... amo, è una cosa che mi fa proprio impazzire. Cioè le gangbang con quanti uomini insieme, amica mia? Allora, l'ho fatto una, la maggiore che ho fatto è stata con 70 uomini. 70 uomini? 70 uomini. 70 uomini. Oh, ragazzi, uno non può stare con 70 uomini. 70 uomini. Sì, 70 uomini, diciamo uno dopo l'altro, non insieme tutti quanti ammucchiati, perché sennò non c'entrerebbe. Come facciamo allora? Uno nell'orecchio, uno nel no, naso, ma infatti in appunto bocca, 70 uomini, immagino in un film, diciamo in una scena di un film. Perché... No, anche in club privé. Anche in club privé. Sì, senti, ma l'uomo più anziano con cui sei stata, diciamo, che ti sei fatta? Uno di 80 anni. Cioè ti sei fatta uno di 80 anni, hai inculato uno di 80 anni? Avevo una paura che lui pigliassi un parto comunque, però dai, è andata alla fine, è andata bene. Ma questi dai. Quanto mollano per un'ora, per esempio? Cioè per un'inchiappettata così, quanto mollano? 200 euro in cerca, 200 euro. E fai anche cose strane di mistress? Sì, faccio calpesti, anche la mistress. Calpesti pure sì. Qualcuno, pissing, cose di questo tipo. Sì, a casa mia a Milano c'è un studio, quindi... Lo studio sì. Esatto. Signora, posso dirle che lo studio è quello degli avvocati, degli architetti, dei notai? No. Anche quello delle, è lo anche studio. Delle ragazze, quello così. È lo studio. Sì, studio in cui riceve delle persone per fare della dominazione. Per fare il BSDM, esatto, sia la BSDM, tortura fisica, psicologica. Io guarda, te lo manderei. Umiliazione, io te lo manderei Parenzo a essere ma umiliato. Ti manderei Parenzo ma no, a farti umiliare. Ma perché? Voglio che tu venga umiliato. Voglio che tu venga umiliato. Scusa un attimo, hai dei fidanzati tu ogni tanto? Oh. Hai dei fidanzati ogni tanto? Io sono sposata. Come sei sposata? Scusa, con chi sei sposata? Sono sposata. Ma con chi sei sposata? con chi? Con un uomo. Con, scusa, con dove, chi? Dove ti sei sposata? A qua in Italia. Cioè sei sposata e quest'uomo accetta tutto questa tua vita, diciamo, non al mondo. Non c'entra niente la mia vita personale con la mia vita professionale. Beh, insomma, quindi no, tu, certo, sei sposato Veronica persona, il mio professionale è il mio professionale, la mia vita personale è la mia vita personale. Comunque ragazzi, l'Italia ama i trans, io voglio chiudere così. Va bene, l'Italia, certo, ama i trans, una marea di persone va a trans, dunque non c'è nessun dell'Europa, odio. Dell'Europa diciamo che gli italiani sono quelli che hanno proprio la fissa. Sono proprio la fissa con i trans, dunque l'Italia, esatto, non odia i trans, italiani, no, italiani! Ah, non vi, voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.